È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui alle 18.34, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde, sms al 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, puntata molto speciale della Zanzara perché saremo in onda fino alle 22, soprattutto con i vostri interventi per commentare naturalmente questi risultati elettorali delle elezioni regionali, comunali, provinciali, ma soprattutto delle regionali. Andiamo subito a sentire il punto che fanno i telegiornali, il TG2 delle 18.30, non c'è? Benissimo, studio aperto c'è? Eccolo qui. L'Italia al voto, chiusi i seggi, il primo dato è la bassa affluenza, intorno al 65%, in corso lo scrutinio per le 13 regioni confermate, la Lombardia e il Veneto al centrodestra, che potrebbe conquistare anche la Campania testa a testa in Piemonte e Lazio, in diretta alle ultime sfide. La strage delle donne kamikaze nel metro di Mosca, due esplosioni all'ora di punta seminano panico e morte. Una quarantina le vittime, più di 100 i feriti, massima allerta in città, il Cremlino, colpiremo i terroristi. Violenza di gruppo durante le elezioni è accaduto in una scuola media bresciana. Arrestati due ragazzi di 14 e 15 anni, una decina di minorenni coinvolti. Allora, 18.35, 800 24, 00 24. La situazione in questo momento è la seguente. Iniziamo con chi sta perdendo e credo che perderà, nonostante lo scrutinio, ed è uno dei nostri preferiti, cioè dire il sindaco sceriffo di Salerno, De Luca, quello che ha dato dello spessato e del pipì a Travaglio. Sta perdendo nettamente in Campania. Mi è capitato di sentire quel grandissimo sfessato di Travaglio, che aspetto di incontrare per strada al buio qualche volta a Roma, perché gli devo questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì. Però non c'è Travaglio. E questo è De Luca che, ripeto, sta perdendo nettamente in Campania. Andiamo qua e là per le regioni coinvolte. Sta trionfando con oltre il 60% secondo le ultime proiezioni, ma era abbastanza scontato. Il grande difensore dei prodotti italiani, quello che dice bisogna preferire l'ananas alla frutta esotica, bisogna preferire il vino italiano alla frutta esotica, l'ananas, no, la frutta italiana alla frutta esotica, e dunque anche l'ananas, bravi. E bisogna preferire il vino italiano allo champagne. Questo è Luca Zaia, sta trionfando in Veneto. Io l'anno scorso ho lanciato lo sciopero dell'ananas dicendo attenzione che l'ananas non è un prodotto tipico e c'è stato un calo del 25% della frutta esotica. Non ce l'ho con chi vende frutta esotica, però aiutiamo i nostri contadini. Naturalmente, per chi non lo sapesse, Zaia che sta trionfando in Veneto è della Lega, mentre De Luca che sta perdendo in Campania è del centrosinistra, Partito Democratico, Pitale dei Valori, eccetera eccetera. Dove andiamo? Direi di andare in Puglia, dove la situazione è abbastanza definita, perché secondo gli ultimi exit poll Vendola avrebbe 3 punti di vantaggio. Insomma, non si può mai sapere, ma insomma, per il filosofo Vendola, appoggiato dal centrosinistra, sembra fatta. Vendola. Già si sente il cattivo odore, già la crisi del berlusconismo esibisce una bestia ferita che con i suoi colpi di coda cerca ancora di far danni al paese, di ferire il profilo sociale e il profilo civile di un'Italia che è stata lungamente manipolata dal racconto berlusconiano. Il racconto berlusconiano non convince più. È pieno di smagliature. E questo è Vendola, è Vendola che pare in vantaggio in Puglia. Sono in bilico invece, è in bilico la regione Lazio, d'altra parte era anche questa una cosa abbastanza prevista, più o meno qualche leggerissimo vantaggio per Abbonino negli exit, negli expo, nelle proiezioni, però insomma sarà uno scrutinio molto serrato e dunque la polverina alla fine non so se potrà cantare. Come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, torno già volare. Vedremo nel corso di questa lunga serata come finirà per la Polverini. Intanto la Bonino ha paura dei gladiatori, teme che possa succedere qualcosa nei seggi, contestazioni sui voti, se ne è parlato molto nei giorni scorsi, e teme dunque i gladiatori della libertà. Bonino. La mia speranza è che appunto tutto si svolga nel modo, e se ci sono diversità di opinioni, come si dice, tra i gladiatori e gli altri scrutatori, si verbalizzino le diversità, e poi ci sono le sedi preposte per sciogliere questi cosiddetti nodi, insomma. Io poi non è che ho capito bene questi gladiatori, che funzione hanno, che ruolo ricoprono, non è che ho capito molto bene. Anche noi non abbiamo capito molto bene, ma il dato più clamoroso, ve l'ho riservato alla fine, il dato più clamoroso sembra venire fuori, almeno secondo me, sembra venire fuori dal Piemonte, dove un leghista, come sapete, Roberto Cota, è in vantaggio secondo tutte le proiezioni, anche se di poco, bisognerà verificare scheda per scheda, voto per voto, nei confronti della candidata uscente, del presidente uscente del Piemonte, Mercedes Bresso. Mercedes Bresso, ricordate, è quella che, dopo che Berlusconi gli ha detto la mattina quando ti svegli allo specchio, insomma, fa magari ti impressioni un po', ha dato allo stesso Berlusconi del malato di Alzheimer. Metterò da parte un attimo il mio abituale fair play per comunicarvi un dubbio che mi è venuto durante questa notte, che insieme ai tanti problemi che questo paese ha, forse ne abbia un altro di un presidente con un Alzheimer galoppante. Perché? E va bene, 18:40, 800 24 00 24, primi commenti abbastanza folli secondo me alle elezioni, per esempio Rocco Buttiglione, scatenato al TG1 e su vari talk show elettorali, secondo Buttiglione stiamo andando verso la guerra civile, non si capisce perché, una volta chiuse le urne, secondo lui staremo andando verso la guerra civile, sentiamo. E questo modello che non permette di parlare dei problemi, costringe ad aggredirsi reciprocamente e fa in modo che, per portare la gente alle urne, bisogni creare un clima da guerra civile. Avete visto l'aggressione a Berlusconi? Ma avete visto adesso la lettera a Bagnasco? È una cosa vergognosa, inaccettabile. Noi stiamo lentamente, ma neanche tanto lentamente, portando il paese verso un clima da guerra civile. E va bene, prendiamo atto che Buttiglione, che per Buttiglione stiamo andando verso la guerra civile. C'è anche la questione un po' ridicola, devo dire, sollevata dallo stesso Buttiglione, prodomo sua, un istante dopo la chiusura delle urne, dell'astensione. Ne parlano tutti, naturalmente è un grande argomento, secondo me è un non argomento, perché stiamo andando invece verso quote di elettori come negli altri paesi, cioè intorno al 60-64, che è pure tanto rispetto per esempio agli Stati Uniti o alla Gran Bretagna, ma comunque... E c'è Buttiglione che dice, beh, insomma, l'astensione significa che è fallito il bipolarismo. Cosa c'entra? Sentiamo. L'unica cosa che possiamo dire con certezza è che la affluenza elettorale è drammaticamente caduta, cioè questo bipolarismo è fallito, questo bipolarismo scoraggia la partecipazione, perché i cittadini non vedono forze prossime a sé alle quali dare il proprio... E va bene, questa è l'analisi di Buttiglione, che ripeto, alle 15:01 già diceva l'astensione colpa del bipolarismo, ma ognuno ha naturalmente la sua diagnosi per quello che riguarda l'astensione, e naturalmente ci si divide anche sull'astensione. Per esempio Capezzone dice è colpa dei mesi d'odio nei confronti di Berlusconi. La mia lettura è che usciamo da 3 mesi di odio in cui il presidente Berlusconi è stato oggetto di un'aggressione costante. Si è cominciato con le aggressioni a parole, si è proseguito con le aggressioni di fatto, quelle di Tartaglia, si è proseguito con le aggressioni televisive. E questo è Capezzone. E naturalmente dall'altra parte c'è l'analisi opposta, cioè dire l'astensione, che c'è stata 8% a livello nazionale, in alcune regioni anche più forte, per esempio nel Lazio, forse per colpa della lista del PDL che non c'era a Roma, naturalmente dall'altra parte dicono è colpa di Berlusconi. Belisario, il nostro pinguino preferito, Felice Belisario. L'affluenza è un dato negativo, nel senso che abbiamo bassa affluenza, sì, okay, dovunque. Per quanto ci riguarda, la responsabilità predominante viene dalla esasperazione che il Presidente del Consiglio ha fatto con un referendum sulle sue pro o contro la sua persona e il suo governo, e quindi ha trascinato inevitabilmente tutti quanti in questa ordalia. E vabbè, questa ordalia, colpa di Berlusconi. Insomma, la gente è andata, non è andata a votare, c'è stato un calo per colpa di Berlusconi. La stessa cosa dice Ferrero di Fondazione Comunista. Molta gente non va a votare perché pensa che la politica non c'entri nulla con la soluzione dei suoi problemi. Cioè, il fatto che Berlusconi riesce ad imporre la sua agenda e a discutere di tutto, salvo che della soluzione dei problemi della crisi, cioè del lavoro, della precarietà, dei salari, fa sì va che bene, gente... è il momento anche delle dichiarazioni più inutili, diciamo la verità, quelle tra le 15 e le 18, 18:30, 19, non che dopo, per carità, ci sia chissà quale analisi, però si può dire qualsiasi cosa. Eccoci qui, 18:45, 800 24 00 24. Tra le cose interessanti che ci sono, secondo me, è seguire in questo momento il testa a testa, oltre che in Lazio, naturalmente anche in Piemonte. E c'è una discrepanza, se uno va a vedere e spulciare online, la discrepanza è questa: mentre le proiezioni danno quota in vantaggio di più di 2 punti nei confronti dell'Abresso, in realtà poi nelle sezioni scrutinate, naturalmente bisogna vedere quali sezioni, c'è la situazione opposta. In questo momento sono state scrutinate per esempio 817 sezioni su 4.835, l'Abresso in vantaggio 48,6 a 46,5, ma naturalmente dipende molto dal tipo di sezioni. Andiamo a Padova, Davide, primi commenti degli ascoltatori che possono intervenire fino alle 10, alle 22. Prego Davide. Sì, buonasera Cruciani, è un piacere sentirla. Niente, io prendo un po' così, l'avevo chiamata venerdì ma anche per fare un commento sul discorso di questo monopolio che si dice sia stato da parte di Berlusconi, dei telegiornali, dei mezzi di informazione, per capire insomma anche che influenza poteva avere in termini di spostamento del così del voto. Quello è assolutamente imprevedibile, penso che ci sia stato venerdì un'iperpresenza nei telegiornali di Berlusconi, su questo non c'è dubbio. È innegabile, però mi pare che i risultati siano stati abbastanza modesti in termini di condizionamento del voto. E come voto, facciamo a saperlo? Bah, sì, questa è un'ottima osservazione, però tutto sommato mi pare che gli equilibri non siano stati molto spostati da questo intervento. Quello che piuttosto secondo me è interessante è questo fatto che Berlusconi ha la tendenza un po' a trasformare tutte quelle che sono le elezioni, anche regionali, in una sorta di referendum su se stesso, spostando l'attenzione da quelle che devono essere, secondo me, e questo è molto grave, e penso che anche l'opposizione gli sia andata dietro facendo un po' anche il suo gioco, spostando l'attenzione sempre sulle tematiche nazionali, sulla o me o contro di me, invece di parlare di quelli che sono i problemi delle regioni, mi pare siano fondamentali. Io parlo per esempio del Veneto, che insomma un tempo era il ricco nord-est e adesso è obiettivamente in crisi, insomma si vede c'è grande crisi qua, e di fatto quello che è successo è che con questa campagna elettorale non si è parlato minimamente delle tematiche, delle problematiche politiche di questa regione. Però Davide, questo è come dire, un problema che è già stato affrontato più volte durante la campagna. Però pensi che un candidato come Zaia, che è un candidato molto forte, ha vinto a mani basse senza di fatto fare campagna elettorale. Sì, c'è un'agenzia da parte del suo avversario Bortolussi che dice che addirittura le elezioni in Veneto sono nelle mani della magistratura, perché ci sarebbe un esposto sull'utilizzazione di macchine pubbliche, di auto pubbliche durante la campagna elettorale da parte di Zaia. Bah. Vabbè, questo è scommesso. Guardi, io glielo dico chiaramente che ho votato purtroppo con chi ha perso molto male. Però se penso che sia una sciocchezza, conoscendo Bortolussi, non lo so, penso, sembra strano che abbia detto una cosa del genere. Le posso assicurare, perché c'è un'agenzia di pochi minuti fa che di Bortolussi che sostiene che le elezioni sono un po' sub iudice, perché ci sono degli esposti alla magistratura sull'utilizzo di auto blu, cioè auto statali, evidentemente di Zaia come ministro, durante la campagna elettorale. Bah. Io sono ancora uno di quelli che pensano che le elezioni si devono vincere sui programmi, non su queste cose. Però, e non con i ricorsi alla magistratura, certamente. Ma secondo me sì, cioè, nel senso, se è molto, secondo me appunto è molto grave che purtroppo non si sia parlato dei programmi, perché penso che Bortolussi avesse un buon programma e tutto sommato Zaia, insomma, naturalmente non l'ho votato, però penso che all'interno della Lega sia comunque uno dei, chiamiamoli, cervelli più validi. Sì, sì. Come ministro dell'agricoltura sicuramente preparato, insomma, chi va bene, grazie. Grazie, Enrico da Cesena, buonasera. Ah, buonasera. Dica, abbassi la radio, spenga, perché altrimenti non sentiamo. Che praticamente, secondo me, il centrosinistra ha perso per il fatto che non ha parlato. Ma scusi, lei come fa a essere sicuro che ha perso il centrosinistra? Siamo ancora tra exit poll, proiezioni, anzi più proiezioni ormai che exit poll. Scrutinio appena iniziato, lei già da sconfitto il centrosinistra, il Partito Democratico. Ma secondo me, no, a prescindere da tutto questo, secondo me ha perso per il fatto che non ha parlato dei programmi, prima di tutto. Mi sembra che nessuno abbia parlato dei programmi. Un attimo solo, Minzolini allo speciale TG1. Laura Chimenti, che è stata qui. Appena silenziosa. Finito di parlare. Allora, Enrico, nessuno mi pare abbia parlato dei programmi, in realtà, almeno a livello nazionale, ma a livello nazionale era quasi inevitabile. Magari a livello locale invece le cose sono andate un po' diversamente. Ma io penso che, io di fatto penso che nessuno abbia parlato precisamente dei programmi. Sì. E tutta la campagna elettorale è stata puntata sulla questione di Berlusconi, come al solito. Sì, però Enrico, a livello nazionale questo è accaduto, a livello locale secondo me le cose sono andate un po' diversamente, locale, e si vota anche per altre. I candidati erano sempre quelli e basta. Enrico, erano sempre quelli, che significa? Erano diversi da regione a regione, non erano sempre quelli. Paolo da Brescia, buonasera. Buonasera. Dica. Signor Cruciani. Allora, io la volevo fare un piccolo intervento. Sono architetto e ho a che fare tutti i giorni con la burocrazia. E mi creda, la stessa pratica edilizia presentata in 20 diversi o 20 ogni diversi. Paolo, la sentiamo male. Andrea da Treviso, buonasera. Non c'è. Gwenda da Vicenza. Buonasera. Io volevo intervenire sul fatto che prima di Luca ho sentito che diceva che vorrebbe incontrare Travaglio di notte. Continuiamo a sì, fare, ma era un modo per dire, scusi Gwenda, l'abbiamo già mandato in onda più volte, era un modo per dire che il De Luca, che abbiamo conosciuto anche in questo modo, pare stia perdendo le elezioni. Non voglio riaprire qui la questione di De Luca e di Travaglio, abbia pazienza, cioè, siamo su un'altra dimensione, siamo passati oltre, siamo al commento dei risultati elettorali. Prego. Sicuramente. E poi vorrei sapere come mai non c'è stata nessuna informazione riguardo il Movimento 5 Stelle. Non ne ho mai sentito parlare alla radio, nei giornali, in TV. Gwenda, mi pare che abbia ottenuto un buon risultato, sia in Emilia-Romagna soprattutto, e anche in altre regioni, mi sembra, dai primi dati. Sì, sicuramente, però sarebbe stato bello sentire qualcuno parlare di questo movimento, anche perché ha presentato un programma che a mio avviso è bellissimo. Purtroppo molta gente non si informa tramite la rete, e quindi questa gente perde l'opportunità, secondo me, di conoscere. Va bene, d'accordo, Gwenda, ho capito. Roberto da Frosinone, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Premetto, signor Cruciani, che sono un elettore di destra, ho sempre votato a destra e per la prima volta non ho votato perché non ritenevo andare a votare per questa elezione. Forse in futuro farò la stessa cosa se continuiamo in questo modo a lavorare al governo. Che significa, Roberto? Non ho capito, mi scusi, non ho capito perché. No, non ho capito, lei dice si è astenuto perché, per quale motivo? Perché queste elezioni sono state molte improntate sulla magistratura, se andiamo a guardare il vero problema dell'Italia in questo momento è la crisi. Va bene, d'accordo, insomma lei ha sentito troppe chiacchiere su altri problemi a livello nazionale, va bene Roberto, grazie. È uno dei motivi, tra l'altro, di cui molti stanno parlando, che ha causato l'8% in meno di afflusso alle urne. Andiamo a Padova. Davide, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io volevo fare questo intervento in merito alla probabile vincita della Lega in Veneto, quasi insomma certa, mentre in Piemonte diciamo stanno sul fil di lana. Comunque l'idea insomma mia era già prima delle elezioni, il fatto che Berlusconi in qualche modo, vedendosi un attimo anche finire come politico in ambito nazionale, ovviamente io gli auguro di continuare, però stia dando in mano il nord alla Lega, fondamentalmente, come diciamo elemento politico. E quindi vediamo che una Lega così forte e territorialmente anche molto presente, capire un attimo cosa farà poi di questa sua forza politica, anche perché, e vorrei mettere questo dato in collegamento con un elemento che da pochi giorni, non so se lei magari ne conosce meglio le particolarità, e cioè le generali che sono anch'esse territorialmente a Mogliano Veneto, quindi sono, insomma, hanno la loro sede a pochi passi, insomma, da Treviso, stiano facendo questo business con questa nuova banca che è proprio specifica nei confronti degli immigrati. Guardi, no? Davide, cioè, non mi sembra la serata per parlare di queste questioni. Cosa vuole che dica? Berlusconi che cede le sue regioni alla Lega? La Lega ha sempre fatto un po' di elastico dal punto di vista elettorale, ha passato dei periodi in cui il consenso aumentava, poi leggermente diminuiva, poi risaliva. Certamente adesso in Lega mi pare, in Veneto soprattutto, mi pare qualcosa che si stia consolidando un po' di più rispetto ad altre regioni, che poi Berlusconi ceda le regioni alla Lega, mi sembra un po' forzato. Corrado da Bergamo, buonasera. Buonasera Cruciani. Sì. Senta, io volevo intervenire perché volevo dire che io non sono molto d'accordo col commento che ha fatto prima circa l'astensione, diciamo minimizzando il fatto e dicendo che bene o male, insomma, ci mettiamo sulle stesse percentuali di altri paesi. Cioè, a me pare che il 64% non sia una... C'è da notare una cosa, che gli italiani, o gran parte degli italiani, sono stati chiamati a votare per il terzo anno consecutivo. Cioè, abbiamo votato nel 2008 per le politiche, nel 2009 per le elezioni europee e adesso per le elezioni regionali. Mi sembra comunque, e sempre con campagne elettorali molto infuocate, per il terzo anno consecutivo, credo erano anni che non accadeva una cosa del genere, insomma, subentra anche un po' di stanchezza, no? Mi sembra il 64% non mi sembra una percentuale proprio così bassa. Certo, sotto il 60% sarebbe stato clamoroso. L'8% in meno in questo clima, in questa situazione, per il terzo anno consecutivo, non è una cifra bassissima. Certo, è bassa rispetto alle tradizioni italiane, ma siamo in linea con altri paesi, o no? Quello che volevo dirle è appunto, nel commentare il dato, non ha senso, secondo me, compararsi con percentuali di altri paesi. Il senso corretto è, intanto, il trend italiano è un trend di netto calo. Questo è un dato significativo, anche perché la percentuale in altri paesi comunque potrebbe non essere ottimale. Non è che qualcuno può dire che 64% sia un dato che, tra virgolette, va bene. Poi, volevo invitarla, se non l'ha già fatto, se ha tempo, guardi alcuni commenti che ci sono a perché non ha votato sul sito del Corriere, per esempio. Cioè, lì sono liberi cittadini che scrivono, ce ne sono tanti di commenti, e scrivono un po' quello che pensano. Cavoli, ma secondo me è molto istruttivo leggere quello che hanno scritto, dico abbiamo perché ho commentato anch'io. Sì, cioè, sì. Cioè, sono molte persone che in maniera molto lucida e per niente qualunquista, no, dicono, no, certo, non si riesce più a scegliere il meno peggio in questo scenario. Basta, cioè, quindi io trovo che anche voi giornalisti, sì, dovete in qualche modo, questo è il mio pensiero, sì, aiutare a rafforzare questo concetto di fronte ai politici, perché altrimenti questi tra 5 giorni comunque c'è una percentuale di votanti, chi ha vinto, chi ha perso, di sì, l'astensione non se ne parlerà mai. Non c'è solamente l'astensione come dato da analizzare. Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24. Cosa sta succedendo nella maratona elettorale sulle televisioni? Emilio Fede ha iniziato il suo speciale, ospite Matteo Colaninno, andiamo a sentire. Non c'è azzecca, il problema è che in piazza bisognava arrestare Berlusconi, che bisognava dare l'impeachment al Presidente della Repubblica. Diciamo che è stata una posizione che non era la posizione di Bersani, io proprio non condivido assolutamente. L'urlo non era di Bersani. Vogliamo vedere le proiezioni del 19 del giorno. Questo credo sia va bene. Molto importante. Poi, aspetta, ecco, proiezione delle 19, adesso, quella che riguarda l'Abresso e Cota, fra poco le vedremo quando adesso? Fede ci aiuta. Beh, noi, non e so, però sentiamo prima i titoli del TG3. Testa a testa nel Lazio tra Bonino e Polverini e in Piemonte tra Cota e Bresso, in Puglia in vantaggio Vendola, Campania e Calabria al PDL. Nelle regioni del nord è derby tra PDL e Lega, in Veneto secondo le proiezioni il Carroccio Liga Veneta in vantaggio del 15%. Affluenza intorno al 65%, un calo di oltre 7 punti rispetto alle elezioni del 2005. Maroni, forte disaffezione di cui tener conto. Due donne kamikaze si fanno esplodere nel metro al centro di Mosca. Decine e decine di morti e feriti, la pista del terrorismo caucasico. Stupro di gruppo durante le lezioni in una media bresciana, arrestati due ragazzini, complice tutta la classe, l'insegnante, non me ne sono accorto. Accuse false, dice il governatore della Sicilia Lombardo, indagato per concorso con i boss, il PM, matrice politica, nella fuga di notizie. Va bene, allora Regione Veneto, ci sono le proiezioni in questo momento mandati in onda dal TG4, copertura campione 44%, Zaia 60,7, 29,6, Bortolussi, queste le proiezioni con il 44% del campione. Liguria, importante, Burlando 52,7, Biasotti 47,3, situazione mi sembra assestata questa qua, copertura campione 47%, sentiamo il TG4, sentiamo. Sandro Biasotti, avanti. Regione Emilia-Romagna inutile, Errani 50,8, Bernini 37,8, copertura del campione 58%, qui la situazione è ultra delineata sin dall'inizio e in realtà sin dalla vigilia, come in Toscana 58,9, Rossi e Faenzi 34,9. La situazione nello spoglio, voto per voto, per esempio in Piemonte, a me interessa moltissimo il Piemonte, la forchetta si sta riavvicinando, questo nello spoglio, nelle proiezioni in vantaggio cotta, nello spoglio siamo a 1.182 sezioni su 4.835, Mercedes Bresso 47,76, Cota 47,19, Peppino Caldarola, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, la sua prima valutazione così a caldo qual è? Naturalmente pesa molto l'incertezza su queste regioni, perché è evidente che se il Piemonte e il Lazio vanno tutte e due al centro-destra o tutte e due al centro-sinistra, qualcosa cambia nella valutazione generale, no? Sì, qualcosa cambia, anche se in qualche modo una si può registrare forse fin d'ora una qualche delusione nel centro-sinistra. Questo sì, questo sì. Si può registrare doverosamente, nel senso che anche il dato dell'astensione, che sembrava un dato inizialmente che avrebbe pulito solo il centro-destra, mi pare che da queste prime proiezioni non emerga in questa maniera. Infatti il testa a testa piemontese diciamo è abbastanza interessante, perché se si risolvesse a favore di Cota, tutto il grande nord, a parte la Liguria, sarebbe tutto del centrodestra. E invece sul dato del Lazio peserà sicuramente anche nelle valutazioni, già lo si sente da alcuni esponenti del centrodestra, l'assenza è un fatto indubbio al di là delle responsabilità. No? Sì, al di là delle responsabilità il centrodestra comunque vada a fine nel Lazio potrà sempre dire di aver vinto malgrado o di aver perso perché sono state escluse le sue liste. Quindi mi sembra per il centro-sinistra un dato certo, diciamo, di forte sopravvivenza, soprattutto perché numericamente il numero di regioni che conquisterà il centrodestra alla fine sarà superiore a quello del centrodestra, però da queste vanno sottratte le regioni più popolose ed è un dato su cui riflettere. Né d'altra parte queste elezioni dicono al PD qualcosa sul tema delle alleanze, perché abbiamo visto che diciamo non viene fuori un risultato univoco, no? Sì, certo, in Piemonte per esempio l'alleanza con l'UDC non ha pagato. Ma finora non mi pare che stia portando quel di più che avrebbe potuto garantire alla Bresso la vittoria, quindi siamo di fronte a una situazione abbastanza complicata. Il centrodestra, rispetto alle premesse iniziali, quelle della non prima della campagna elettorale, ma quelle della campagna elettorale, che lo vedevano via via in grave difficoltà, invece ha rimontato e tiene le sue posizioni abbastanza bene. E chissà se ha rimontato per la campagna elettorale di Berlusconi negli ultimi giorni, questa naturalmente sarà una delle domande. Questo è un dato su cui bisogna sempre ragionare, però Berlusconi si rivela un catalizzatore di voto ancora molto forte. I ragionamenti sul suo declino sono ragionamenti storici, ma nell'immediato poi spesso la realtà smentisce. A me colpiscono molto anche altri due dati. Il primo dato è che non c'è la valanga Vendola nei confronti di Palese, almeno gli ultimi dati danno Vendola in vantaggio solo di 2 punti. Per carità, Vendola vince ed è una vittoria importantissima per il centrosinistra. Certo che se il centrodestra, se gli elettori moderati si fossero coalizzati, non ci fossero stati in Puglia dei problemi, lei conosce molto bene la situazione pugliese, dei problemi probabilmente anche all'interno di alleanze, della ex alleanza nazionale eccetera eccetera, di gelosie tra candidati, probabilmente probabilmente il centrodestra avrebbe vinto anche in Puglia. Poi... Se lo sconfitto comunque vada in Puglia il ministro Raffaele Fitto. Ah, non c'è dubbio. Avendo impedito l'accordo con la Poli Bortone consentirà a Vendola la vittoria. Sì, anche perché la Poli Bortone ha preso un ottimo risultato e se fosse stata lei candidata molto probabilmente avrebbe vinto. Adesso so, col senno di poi si possono dire tante cose, naturalmente. Sì, ma questo è un dato... Mi pare. Certo, e a me ha colpito anche la distanza che c'è tra i candidati del centrodestra e del centrosinistra in Calabria e in Campania. Mi pare una distanza abissale nelle proiezioni. Una distanza che sta nelle cose di governo, nel senso che il giudizio popolare sulle due amministrazioni di centrosinistra era negativo, più clamorosamente negativo quelle in Campania per via della vicenda sì. dei rifiuti. Forse meno evidente per chi non aveva rapporti con la realtà calabrese, però il risultato elettorale di Scopelliti è un risultato indiscutibile. Certo. No? Ecco, da qui alla fine lei che aspetta, allora, con molta curiosità, e dunque tanto per darci anche un'indicazione di cosa è più interessante seguire da qui alle 22, forse il dato del Piemonte mi sembra quello più interessante. Ma io direi di sì, perché il dato, secondo me, noi saremo sospesi fino alla nottata sul dato laziale, su cui comunque peserà sempre la questione della lista. Non sì. Sì, sì. Per tanti aspetti è il dato più positivo. Grazie a Peppino Calderoro. 19:25, direi ascoltatori. Fabio da Taranto, buonasera. Sì, buonasera. Come prego. Ma io volevo intervenire sul discorso dell'astensionismo, nel senso che secondo me il dato è positivo, nel senso che al contrario di quel che dice Buttiglione, anzi io vedo una sorta di normalizzazione, perché normalmente le persone... secondo me andavano a votare contro l'avversario, cioè quando vedevano il pericolo. Bravo Fabio, secondo me è un'ottima analisi. Il fatto di non andare a votare non necessariamente significa l'odio nei confronti della politica o il disgusto nei confronti della politica. Chi l'ha detto? Chi l'ha deciso? Non necessariamente deve essere questo. Proprio no? Al contrario, non le chiamate di popolo, il mio popolo venga a votare per me e così via, non ha funzionato, nel senso che appunto le persone probabilmente hanno capito che insomma o amministra uno o amministra l'altro, non è la fine del mondo, quindi diciamo si sente anche le persone si sentono più tranquille magari di non andare a votare, ecco, in questo senso. No, ma secondo me è una analisi interessante, anche originale rispetto a quelle che sentiamo, comunque alla paura dell'astensione. Non è detto che l'astensione poi debba essere così negativa, il dato italiano è sempre stato molto alto anche per questa chiamata alle armi e dunque non proprio per un ragionamento, diciamo, no? Ma per una chiamata alle armi contro il nemico. Grazie. Alessandro da Ravenna, buonasera. Sì, buonasera. Io invece, forse sono più tradizionale, ho scelto di non andare a votare. Sto a 100 metri dal seggio e coscientemente ho scelto proprio di non andare a votare. Semplicemente noto però una disparità di trattamento per chi sceglie di non andare a votare nelle politiche o nelle amministrative rispetto ai referendum. Io credo che i referendum siano rimasti l'ultimo baluardo dell'espressione popolare. Però ci sentiamo dire, che mi ha esclusivo, della legge 40... La sentiamo male, Alessandro. Davide da Verona, buonasera. Pronto? Dica, Davide. Buonasera. Innanzitutto vorrei collegarmi a quello che ha detto prima ragazzo, che è vero che il non voto comunque secondo me esprime comunque una volontà da parte del cittadino, perché secondo me anche io ero molto vicino a non andare a votare proprio perché non credo più in niente, diciamo. Dopo ho cambiato idea perché sono andato a sentire Beppe Grillo in piazza, ma non tanto per lui, tanto per i candidati, e ho sentito questa voglia di credere in qualcosa dopo 10 anni in cui non credo più a niente. E dunque ha votato per il Movimento 5 Stelle? Sì, ho votato per il Movimento 5 Stelle e penso che tra quel 7% che si è perso, cioè l'incremento del 7% dei non votanti, se avessero saputo anche loro che c'era questo movimento, che secondo me non è stato proprio pubblicizzato per niente, magari qualche voto in più lo prendeva. Beh, col senno di poi si possono naturalmente sostenere tante tesi. Davide, anche con lei ci risentiamo dopo le notizie dalla borsa. Intanto, sempre per lo spoglio scheda per scheda, nel Piemonte, che è la situazione più interessante, Bresso 47,5, quota 47,4, 1232 su 4835. Eccoci qui, 19.34, 800 24 00 24, sul TG4. Questa sera faremo anche un giro per come le televisioni, sulle televisioni e le elezioni. Bel Pietro, direttore però, di Libero, se sentiamo. Si vanno a vedere alcuni dei risultati, li prendiamo per buoni quantomeno. Si vede che in Emilia il candidato starebbe al 50% e rotti, quindi in una regione tradizionalmente rossa, fra l'altro con un candidato, con un presidente uscente, la vittoria è proprio di poco quantomeno, si supera appena il 50%, e questo vuol dire che insomma la situazione anche in generale nella sinistra non è messa molto bene. Guardando poi alcuni risultati che riguardano il PDL, si vede che in diverse regioni il PDL aumenta. Quindi se doveva essere questa è l'analisi di Belpietro. Intanto i voti in Piemonte si riassestano secondo anche le indicazioni delle proiezioni, e dunque abbiamo per esempio 1252 sezioni e Cota in vantaggio di 300 voti circa, poco più di 300 voti. Siamo lì, ma naturalmente un ascoltatore già mi dice: mancano i voti delle province della Lega, Cruciani si tranquillizzi. Guardi, io non mi devo tranquillizzare per niente, perché a me come va la situazione in Piemonte non me ne frega assolutamente nulla. 800 24 00 24, cos'è 5? Ah sì, c'è Davide da Verona. Sì, prego Davide. Niente, volevo dire che anche Belpietro dovrebbe preoccuparsi anche del suo Berlusconi, perché secondo me, io che sono veneto, che conosco tanta gente che ha sempre votato Berlusconi, questa volta hanno tutti votato Lega. Che ne sa che il suo Berlusconi, mi scusi, lei pensa che Belpietro sia una sorta di fan di Berlusconi? Certo, non è... Certo, una persona che ragiona con la sua testa, lei lo esclude di partenza. No, anzi, magari fosse così per tutti. E niente, volevo dire che come appunto tanta gente che ha sempre votato Berlusconi adesso si è portata sulla Lega, e questo conferma che la campagna elettorale che ha fatto Berlusconi è stata veramente, almeno il mio parere, è un mio parere che ragiono con la mia testa, un insulto all'intelligenza. Questo non lo so, Davide, questa è la sua opinione. Dal punto di vista dei voti in generale, per come si stanno mettendo le cose, e come ci diceva anche prima Peppino Caldarola, che non è proprio berlusconiano di ferro, non mi pare che si stia mettendo male per quello che riguarda Berlusconi, però molto dipenderà dallo scrutinio del Piemonte e anche da quello del Lazio. Ugo da Bari, eccoci qui, dalla Puglia che pare di confermare Vendola. Sì, buonasera. Buonasera. Innanzitutto volevo dirle che io concordo con lei sul fatto che l'astensione non significhi necessariamente una predisposizione negativa, anche perché è giusto votare ogni anno per 3 anni di seguito. Bisogna trovare persone molto pazienti, perché vadano sempre regolarmente a votare. Ma io volevo parlare più che altro dell'exploit della Lega e di quello che significa in termini di, uno, proposizione ideale, e questo lo fa anche Grillo, tutto sommato, a modo suo. Che vuol dire? Due, mi scusi, non ho capito. Perché propone degli obiettivi che non sono solamente legati alla quotidianità. Propone un ideale, la Lega propone il federalismo e insieme la Padania e insieme il Monviso. Cura i due aspetti. Grillo uguale, propone l'irruzione al consiglio di amministrazione della Telecom, e poi propone tutta una serie invece. Scusi, però Ugo, perché lei mi fa questo paragone tra Grillo e la Lega? No? Per capire cosa c'entra Grillo? Lei dice perché il Movimento a 5 Stelle ha ottenuto dei buoni risultati in questo senso? Penso di sì, penso che siano ottimi. Guardi che quando un movimento come quello di Grillo si istituzionalizza, in automatico perde la sua vitalità. Insomma, questa è la mia opinione. Ma è il segnale quello che conta, il messaggio. Voglio dire, non aver fatto campagna sulle problematiche delle persone nelle varie regioni, che sono diverse tra di loro, perché chi vive in Sicilia ha problemi in parte uguali e in parte diversi di chi vive a Milano. Cosa ci vuole dire con questo ragionamento, Ugo? Voglio dire che siamo di fronte ad una situazione politica che non si sblocca, è ferma. Beh, scusi, la vittoria, l'eventuale vittoria di Cota in Piemonte non mi pare proprio una situazione bloccata. Insomma, un leghista che vince la presidenza della regione Piemonte non mi sembra una cosa così. Ma è una parte del paese, vede? Ho capito, certo, sono elezioni regionali. Cosa vuole che lei dice? A livello nazionale non si sblocca, ma questa è la malattia di vedere in ogni elezione locale un dato che possa essere interpretato a livello nazionale. Ad un ulteriore punto che poi alla fine non lo so se mi ci arrivi, molto però a questo punto della sintesi. ovvero questi movimenti nuovi stanno proponendo un ricambio anche a livello personale e politico che purtroppo non è avvenuto, e 10 anni fa, 15 anni fa noi tutti abbiamo contato su questo risultato. Sono pochi i nuovi esponenti, moltissimi i vecchi che continuano ad esistere. Queste realtà nuove, io prendevo ad esempio queste due, propongono un ricambio totale, darsi che per Bossi sia stata una necessità. Va bene, Ugo, ho capito. D'accordo, grazie. Francesco da Napoli. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io innanzitutto la ringrazio per la sua radio, che sono sempre attaccato vicino, e le comunico che Napoli finalmente è libera dalla banda Bassolino e del PD. Bene, Francesco, allora le potrei dire anche se fossi un esponente del centrosinistra, se fossi un esponente del centrosinistra, le potrei dire che invece è in mano adesso ai casalesi, perché la campagna elettorale spesso in campagna è stata così, per cui non dica sciocchezze lei, mi faccia un ragionamento un po' più sensato rispetto alla banda Bassotti, allora, alla banda Bassolino. Che poche ore fa la sindaca Iervolino ha dato un comunicato alla stampa e ha detto: votatemi il bilancio ed un minuto dopo mi dimetterò. Questo è stato un fallimento totale a Napoli. Francesco, adesso verificheremo questa cosa da Iervolino. La ringrazio. Sì, Giulio da Verona, buonasera. Sì, buonasera a lei. Dica. Volevo fare una breve considerazione sul successo della Lega che ha avuto qui nel Veneto. Sento persone che chiamano quasi preoccupate, secondo me anche strumentalmente, sul successo della Lega, come fosse una forza xenofoba neonata. La Lega sta governando da anni nel Veneto, la provincia di Verona, il comune di Verona è governato benissimo da un sindaco che riscuote successi non solo mediatici, come alcuni giornali spesso riportano, e sta amministrando bene la città. Il Piemonte ce lo stiamo, dico, la Lega se lo sta giocando, credo in modo forse un po' sorprendente, perché tutti credevano che avesse successo anche lì, ma non in queste proporzioni, per cui chi vuole dare una chiave di lettura diversa da quella che è, diciamo che il Popolo della Libertà qui a nord si divide tra Lega e appunto il PDL. La Lega, ripeto, sta riscuotendo buoni successi a livello locale e sta andando all'incasso. Non ho capito Giulio, lei dice la Lega ottiene consensi perché governa alcune realtà locali molto bene, questa è la sua analisi? Parlo del caso di Verona. Verona è governata D'accordo, Giulio. Invece cosa si dice? Cioè lei contesta? Non ho capito. No, io non contesto nulla. Sto facendo una considerazione sulla base di alcuni interventi che ho sentito prima di me, che stanno dando una chiave di lettura quasi preoccupata sui successi della Lega. Ma chi lo dice? Ma chi è preoccupato? No, prima alcuni radioascoltatori hanno chiamato dicendo la Lega sta avendo un successo, ho sentito anche altre emittenti che stanno contando i successi della Lega qui nel Veneto. Nel Veneto era scontato, diciamo, nel Piemonte invece diciamo che è un risultato un po' a sorpresa. Ma guardi che non c'è nessuna preoccupazione, solamente gli stupidi si preoccupano di un successo della Lega al Nord come se fosse l'avanzata dei barbari. La ringrazio. Credo, se mi permette una piccola precisazione. Dica Giulio. Credo che ad esempio nel Veneto la Lega riscuote così tanti successi perché lancia un messaggio anche alla nazione. Cioè qua il popolo veneto, come il popolo lombardo, piemontese e molti altri, forse anche del meridione, ci terrebbe davvero che ci fosse una sorta di federalismo e di attenzione nelle spese pubbliche. Parlo della sanità, per esempio, dove l'eccellenza c'è sia qui che in Lombardia. Sarebbe bello che i politici di tutti i versanti cogliessero questi messaggi invece di dare chiare addirittura di... Va bene, va bene. Grazie Giulio. 800 24 0024. Marco da Milano dell'Espresso. Ciao Marco, buonasera. Ciao. Allora, la tua prima valutazione, anche se è presto, molto dipende dai risultati del Piemonte e del Lazio, non c'è dubbio, no? Infatti siamo qui appesi a queste due regioni ormai da parecchie ore, e d'altra parte si sapeva che sarebbe stato così, soprattutto il Piemonte. Il Piemonte, Marco, non è che per me è stata una sorpresa un voto così, addirittura nelle proiezioni in vantaggio Cota. Però il Piemonte era la regione chiave, perché lì i due schieramenti si confrontano portavano ai massimi livelli, cioè mettevano in campo tutto quello che hanno. Sì, da un lato il Piemonte, non dimentichiamo che il centrosinistra andava dall'UDC di Vietti fino alla Rifondazione Comunista, poi hanno detto accordo tecnico, però fondamentalmente ci stava anche Rifondazione Comunista dentro. Insomma, la vecchia Unione più l'UDC, diciamo. No? Unione più l'UDC, e restava fuori questa lista di Grillo che nessuno ha considerato e che invece nelle proiezioni potrebbe essere alla fine perfino determinante. Ricordiamo che lì una delle questioni centrali, ma tutte ne si occupano tante volte, l'alta velocità, il popolo Notav, Beppe Grillo che si è intestato questa battaglia da tempo. Sì, insomma. 3,7% nello scrutinio, nelle proiezioni forse qualcosa, quindi è assolutamente una sorpresa unita a quella dell'Emilia dove il risultato è ancora più alto. Quindi da un lato il centro-sinistra compatto e c'era la famosa grande alleanza evocata da Bersani, sì. Dall'altra parte c'era la novità di un centrodestra guidato dalla Lega in una regione dove la Lega finora non aveva ancora attecchito. Io sono stato in Piemonte a seguire la campagna elettorale, cioè una campagna elettorale molto brutale, forse più brutale perfino di quella dell'Lazio per certi versi, se poi la trasporti in una regione invece che nota per il suo understatement, per una certa freddezza. E invece lì vedevi, non vedevi manifesti, non siamo pirla, non vogliamo morire Lombard, insomma. Ecco, però Marco, ti chiedo una cosa, insomma ci sono stati due o tre episodi di violenza verbale, di violenza politica da una parte e dall'altra piuttosto significativi che ti davano lì quanto fosse alta la posta in gioco. Ecco, però voglio chiedere a Marco Demiano una cosa, sei d'accordo su una cosa? Cioè se in Piemonte, così come indicano le proiezioni, dovesse vincere il candidato della Lega, Cota, beh, insomma, questo sarebbe, al di là del Lazio su cui il centrodestra potrà sempre dire la questione della lista e dunque rivendicare in realtà un torto subito, al di là poi delle cose, di come si sono svolte le cose sulla presentazione delle liste, sarebbe certamente il risultato più significativo di queste elezioni, o no? Dicendo, infatti è assolutamente così. È lì che si gioca il match clou, diciamo, proprio perché c'è questa prima volta della Lega che traina il centrodestra, dall'altra parte il centrosinistra metteva in campo quella che dovrebbe essere una cosa molto simile all'alleanza che Bersani vorrebbe costruire in vista del 2013. Quindi se l'alleanza UDC più Unione, chiamiamola così per comodità, dovesse uscire sconfitta in Piemonte contro un candidato leghista, beh, vuol dire che insomma in questo paese l'opposizione deve ancora lavorare a lungo prima di sperare di ribaltare i rapporti di forza. E poi c'è questa Lega che mi veniva da pensare da anni che si prevedeva che Berlusconi alla fine avrebbe cannibalizzato la Lega, che la Lega era un fenomeno transitorio, che poi tutto si sarebbe ricomposto nell'ambito di un grande partito di centrodestra europeo, come si dice nelle analisi politologiche. Invece il risultato di oggi ti dice che forse finirà esattamente al contrario, sarà la Lega che cannibalizzerà il PDL e senz'altro la Lega sopravviverà a Berlusconi e anche a Bossi, cioè una creatura politica che continuerà a prescindere dai suoi fondatori e dai suoi alleati di questa fase. Insomma, la Lega è un partito che con il risultato di oggi esce dalla transizione, non è più un fenomeno transitorio, è un partito molto radicato, popolare, che durerà nel tempo, non si esaurirà. Io non so cosa stai facendo oggi, però hai la sensazione di una delusione nel centro-sinistra, così a quest'ora, alle 19.48, poi vedremo. Io sto nelle sedi nazionali dei due partiti, adesso sono a Via dell'Umiltà PDL, sono stato fino a poco fa alla sede di Nazareno del PD. Sì. Senz'altro nel PD c'è una delusione e c'è anche la speranza, appunto, che poi in Piemonte e nel Lazio alla fine della sera arrivino buone notizie. Quindi sono tutti appesi alle due signore Bresso e Bonino sperando che facciano il miracolo. Grazie a Marco da Milano. Grazie, ciao. 19.48, andiamo a Massimo, Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Allora, io ho aspettato fino adesso pazientemente, giusto così per darvi una chiave di interpretazione. Sono un elettore di centrodestra, media età, cultura universitaria in quanto mi sono laureato. Ora, fino ad oggi ho sempre votato, questa volta non ho votato, coscientemente non sono andato a votare, perché probabilmente per quello che è successo e che è stato commentato da Radio 24 e che ho potuto ascoltare in queste sere del pasticcio delle liste. Sì. Ovvero, volevo dare una chiave di interpretazione di quella che è stato l'astensionismo. Non so probabilmente se tutti la pensano. No, l'astensionismo nel Lazio tra l'altro è stato più pronunciato, sicuramente lo ha detto anche il Ministro degli Interni, nel Lazio l'astensionismo più pronunciato rispetto ad altre regioni, insieme anche alla Campania, e lì ha pesato la questione delle liste del PDL, su quello non c'è dubbio. Indubbiamente, soprattutto come è stato gestito. Sì, ma non solo, però Massimo, come rifiuto a quello che è accaduto, che è il suo caso, ma anche per il fatto che ci sono molti candidati del PDL a Roma, nella provincia di Roma, che avrebbero fatto campagna elettorale, dunque portando gli elettori, eccetera, eccetera. Non solo per un rifiuto rispetto a come è stata gestita la questione delle liste, della presentazione delle liste, ma anche proprio per una questione di, come dire, di coinvolgimento nella campagna elettorale. Devo dire che questo aspetto è un aspetto ben pensante di quello che è successo, perché se posso permettermi un altro ulteriore commento, la cosa che io ritengo sia assolutamente improponibile è come a livello nazionale ci siano dei due principali partiti che sono appunto in questo caso il Presidente del Consiglio. Guardi, non la sentiamo più. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Due considerazioni, una è una previsione, credo che questo risultato della Lega avrà sicuramente ripercussioni a livello nazionale, ma soprattutto in ambito agli equilibri all'interno del Popolo delle Libertà, perché visto la campagna che ha fatto Fini, smarcandosi e assumendo delle posizioni molto un po' distaccate rispetto alla linea, con questo nuovo equilibrio, questo peso che la Lega ha assunto e che era prevedibile, sicuramente qualche strascico lo porterà. Spero che qualche sciagurato non si faccia venire in mente elezioni anticipate per dare l'ultima spallata a Fini e ai suoi seguaci. L'altra è che mi auguro che dopo la bagarre elettorale qualcuno metta mano alle norme sull'informazione, perché come è stata gestita quest'anno è stata veramente una cosa, direi, abbastanza ridicola, che almeno ci mettano la testa e trovino un sistema di norme che consenta soprattutto ai cittadini di essere informati in maniera equa, in maniera obiettiva, e non di essere privati di alcune trasmissioni che nel bene o nel male, però in ogni caso un messaggio lo fornivano e qualche informazione la davano. Bah, non credo proprio sui programmi elettorali regionali, Roberto. Poi al di là del fatto che la sospensione è stata un errore, è clamoroso, ma non credo che saremmo stati più informati dei programmi dei singoli candidati regionali. Giuseppe da Catania, buonasera. Sì, buonasera. Volevo dare un'interpretazione sull'astensionismo a carattere nazionale, perché sì. In questo momento sa che molti sono un po' disgustati dalla politica, dalla casta, di tutto, e quindi col non voto esprimono il loro dissenso sia per la destra che per la sinistra. Non mi pare una cosa nuova questa cosa. E poi sotto questo aspetto la conferma sta nel fatto che sono aumentati i partiti tipo la Lega e quello di Pietro, che sono quelli meno coinvolti da scandali. Ma su Di Pietro non ho dati di aumento del consenso elettorale, magari ci sarà sicuramente. È passato dal 2 all'8%, sale l'ultima regionale ad attuale, ce l'ha un incremento. Sì, vabbè, ma non bisogna fare la tara sulle regioni del 2005. Comunque, nell'astensionismo molta gente non ha votato perché è stufa di questi politici. Può darsi. L'astensionismo, come abbiamo sentito anche questa sera dagli interventi degli ascoltatori, non è che possa essere racchiuso in una sola categoria. Bene, grazie. È un'interpretazione tipo quella francese. Sì, no? L'antipolitica. Luca da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, due considerazioni perché l'ascolto tutte le sere. Una è più legata al movimento di Beppe Grillo, perché anche secondo me è un classico voto di protesta, come potrebbe essere anche quello della Lega o a Torino o da altre parti, perché non era sicuramente un partito fortissimo in questa regione. E seconda cosa, ne volevo il suo commento, però volevo sapere, visto che lei non ama tantissimo Grillo, io ogni tanto lo seguo e sono d'accordo con lui, altre volte no, volevo sapere il suo commento su questa. Sulle liste Grillo, guardi, io francamente non ho non ho seguito moltissimo la presentazione delle liste, il tipo di candidati, eccetera, eccetera. Mi pare positivo che un movimento come quello di Grillo, che si presenta in linea di massima come un movimento antisistema in cui i partiti fanno schifo, poi ci si presenta alle elezioni. Dunque, insomma, un po' c'è una contraddizione in questo. Dall'altra, penso che la istituzionalizzazione di un movimento di ribellione, di protesta contro la politica sia sempre un fattore positivo. Sì, sono d'accordo se con me. Serve poi, se serve poi naturalmente a produrre a livello locale idee, azioni, cose concrete, insomma, come pare che facciano i rappresentanti del movimento di Beppe Grillo nelle varie amministrazioni, nelle poche amministrazioni in cui sono coinvolti. Sì, sono d'accordo con lei, anche perché ho sentito che loro propongono che i loro candidati dopo 2, 4, 5 anni, non ricordo bene, si debbano togliere dal mondo della politica e quindi lasciare posto ad altri, non come i professionisti della politica che si usa dire adesso, no? Seconda cosa, una cosa un po' strana, gliela racconto perché a me è sembrata così. Io anni fa sono stato anche, le credo anche lei sia di adesso sono origini radicali, poi io sono passato magari a essere un fan, non fan, ma sicuramente un elettore di centrodestra. Adesso sono sicuramente magari più lontano dalla politica, ma mi ha colpito moltissimo gli ultimi 3-4 giorni quegli attentati o finti attentati o queste rivendicazioni, il proiettile, gli anarchici contro Berlusconi. Lei la vede come una possibilità, cioè mi sembrava quelle cose un po' costruite per far pensare che il cattivo era lui. E non lo so, questo no, io penso che non abbiano avuto nessunissima influenza sui risultati elettorali, non sono in grado di dirle se dietro questi attentati ci sia una regia per far aumentare consenso al centrodestra. Ringrazio Luca Emilio Fede, scatenato per quello che, almeno per come stanno andando i risultati secondo lui. Numero 1, compatisce Penati, sentite. Regione Lombardia, Filippo Penati 33,2, Partito Democratico Italia dei Valori, mentre Roberto Formigoni 55,6, Popolo della Libertà mi pare Panzeri, Colaninno, che qui insomma per quanto la forbice si possa restringere, forse qui Penati pena per la seconda volta, per la seconda, povero Penati, povero in senso affettuoso, che è simpatico. E poi c'è la sviolinata con Formigoni. Presidente Formigoni. Ci dire. Buonasera direttore. Tripresidente, no? Cos'è la terza legislatura? La quarta vittoria consecutiva. Ha detto Colaninno è un regno. Che significa che il centrodestra in Lombardia proprio non ha rivali. Lei ha l'aria contenta? La vedo sorridente. Sì, direi di sì. Anche tutti gli amici dei nostri partiti sono contenti. Va bene, dove andiamo? Marco da Roma, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Dica. Io chiamo soltanto perché come elettore di sinistra io sento veramente abbaiare i cani alla luna e non riesco a trovare qualcuno che dica effettivamente, ma signori, Berlusconi sta vincendo a rotta di collo tutte le parti, però non tiriamo fuori nessuno che effettivamente gli si possa contrapporre, cioè tiriamo sempre fuori la storia del ha fatto questo, ha fatto quest'altro, sì, ma lui fa tutti i processi a suo favore, non dà retta al paese, c'è la crisi, però poi fondamentalmente dall'altra parte io non vedo nessuno che effettivamente si metta lì e dica ok, come possiamo batterlo? Cioè, io non ricordo con precisione, ma c'è stato qualcuno del Partito Democratico o comunque del centro-sinistra che ha detto ci dobbiamo preoccupare del perché le persone, il popolo non ci vota più, non perché votano a Berlusconi. E ancora questo io non lo vedo. Volevo avere un suo giudizio su questo. Ma sono abbastanza d'accordo con lei. Nel Lazio 1881 sezioni su 5266, 50,48 Bonino, 48,93 poco più di un punto e mezzo per la Bonino. 1881 sezioni scrutinate su 5266, ancora presto, molto presto. Eccoci qui, 800 24 00 24, andiamo col TG5. regionali ha votato solo il 63,6% degli elettori. Il centrosinistra, che governava 11 delle 13 regioni in cui si è votato, si confermerebbe secondo le proiezioni in 7, e cioè in Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata, Puglia e Liguria. Il centrodestra, che guidava solo Lombardia e Veneto, raddoppia, strappando all'opposizione Calabria e Campania. Centrodestra avanti anche in Piemonte, mentre si va al photo finish nel Lazio tra Polverini e Bonino. Grande soddisfazione del Popolo della Libertà. Lega scatenata, dice Bossi, ora federalismo. Il PD giudica positivo il risultato, giudizi analoghi da UDC e Italia dei Valori. Il record di astensioni, commenta Maroni, è un segno di disaffezione. Va recuperata la fiducia degli elettori. Va bene, 21 minuto, 800 24 00 24. Allora, per fare un po' il punto della situazione, ci sono 1000 voti di differenza nello scrutinio, ripeto che secondo invece le proiezioni è in vantaggio Cota, ma secondo lo scrutinio c'è i voti veri, bisogna vedere naturalmente le sezioni che vengono scrutinate. Bresso è in vantaggio di un migliaio di voti, 257.727 contro 256.632 nei confronti di Cota, e una distanza più larga c'è al momento anche nel Lazio a favore di Emma Bonino su Renata Polverini. Ma andiamo agli ascoltatori. Natalino Campobasso. Buonasera dottor Cruciani, io volevo farle i complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo dare una notizia che potrebbe essere una notizia che interessa poco, però è importantissima perché nei prossimi giorni avrà rilevanza nazionale. È che nel comune di Montenero di Bisaccia, cioè il comune nativo e residenza estiva e di weekend dell'onorevole Di Pietro, l'onorevole Di Pietro, la sua candidata, la dottoressa Rosati, ha perso le elezioni contro il candidato di una lista civica di indicazione di centrodestra PDL-UDC. Quindi, ma questa è la prima volta? Da quanti questa anni? Questa è la prima volta, sì. Cioè a Montenero di Bisaccia vince il centrodestra. Sì, deve tener presente che Di Pietro è stato alla chiusura della campagna elettorale, si è dato anima e corpo per cercare di far vincere queste elezioni nel suo comune fino all'ultimo momento, facendo telefonate e quant'altro. E questo è un grosso risultato in Molise, perché ha ricambiato i favori che ha fatto quando lui faceva il ministro, comunque, quindi si è adoperato ben poco per la nostra regione. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Stefano da Modena, buonasera. Salve, pronto? Dica, Stefano. Allora, io faccio un po' come Virginia Tori, cioè, depongo le armi ai piedi del vincitore. È molto triste. Qual è il vincitore, Stefano? Purtroppo la Lega. Siamo l'unico paese al mondo ad avere un partito come la Lega, assolutamente xenofobo, allucinante. Beh, Stefano, secondo direi, lei dunque hanno vinto il paese a loro, hanno vinto gli xenofobi. È una tristezza totale. E consegniamo il paese all'ignoranza, consegniamo il paese a gente come la Gelmini, le cui riforme sono... Non mi pare che la Gelmini sia della Lega, se lei voleva proseguire sul discorso della Lega. E non mi pare che consegniamo il paese alla Gelmini, abbia pazienza. No, diciamo che il paese rispecchia chi vota, un paese che vuole solo condoni, vuole scudi fiscali, vuole... Non mi stupisce il voto in Calabria. Perché là c'è l'Andrangheta, no? Invece quando c'era lo Io, certo, l'Andrangheta non c'era. Invece quando governava Bassolino, la Camorra non c'era. Comunque si è visto che comunque sicuramente il PDL è decisamente più legato. Vabbè, Stefano, mi sembra che la sua analisi del voto sia quantomeno superficiale. La ringrazio. Marco d'Arezzo. Buonasera. Buonasera. Sono un ex elettore di... sono un cattolico osservante praticante. Sì. Quindi non posso votare a sinistra per tutte le ragioni etiche possibili e immaginabili. Quindi non mi considero né di destra né di sinistra, mi considero un individuo che vota a seconda di quello che sono i programmi. Va bene, poi? Visto e considerato tutte queste premesse, che lei è cattolico praticante, che eccetera eccetera che eccetera. Non anche sono, no... Che non ci sono programmi, non vado a votare. Non va a votare, benissimo. Dopo tutta questa premessa, dopo averci detto che non va a votare, conclusione qual è? Che non la spiegazione per cui non sono andato a votare, perché nessuno mi ha presentato i programmi, sì, perché Berlusconi fa un plebiscito sul suo governo che non mi ha soddisfatto pienamente, la Lega che ha impedito l'eliminazione delle province perché sono aumentate quando ci avevano promesso che le avrebbero, sì, tolte, Quindi non è vero che chi non va a votare non ci va perché non c'ha voglia, perché sono ignorante, perché no, è un non voto ragionato, calcolato e ben conscio. Sì, il suo naturalmente, Marco. Insomma, tutti gli altri sono dei cretini. No, ho detto il suo. Ho detto il suo. Gli italiani sono un popolo di coglioni, ma no, quelli ma... sono dei fessi. Beh, insomma, cerchiamo di ragionare un attimino. Ma è lei, io che sto ragionando, ragione, io sto dicendo, Marco, questo è il suo motivo per cui non è andato a votare, ce l'ha spiegato, non è che tutti quelli che sono andati a votare, che non sono andati a votare, la pensano come lei. Ci sono tante altre persone che io conosco che non sono andate a votare semplicemente perché sono disinteressate alla politica e non perché siano schifate dalla politica, eccetera, eccetera. La ringrazio, sempre toscana, Fabio da Firenze. Sì, buonasera. Dica. Sì, no, io il dato della Lega Nord, secondo me è l'unico partito, cioè secondo me è l'unico partito, io parlo da toscano e da uno che non voterà mai la Lega, però è l'unico che ha politici, secondo me, che hanno un aspetto umano, cioè è gente che può trovare fuori e che parla come mangia, si dice dalle parti nostre, cioè l'immagine di Alderoli che brucia le leggi e che fa il falò e si vede la faccia rubiconda e contenta, secondo me è un'immagine che arriva. Lei dice, no? Per me è agghiacciante, però può darsi pure... È agghiacciante, però dà un senso di tangibile di persone che fanno le cose, capito? Che cosa bruciano, che bruciano le leggi, che peraltro non erano nemmeno leggi, comunque. Vabbè, no, ho capito il senso del suo discorso, Fabio. Sicuramente è così, quella non è una bellissima immagine, secondo me, proprio da tramandare, quella di Calderoli vestito con la giacca di pelle e con il lanciafiamme, però... Quindi anche lì sempre le partite. Non la sentiamo più, Loris da Milano. Sì, pronto? Prego. Pronto? Mi sentite? No, io sono un affezionato ascoltatore della Zanzara e sono un poligrafico, per chi non lo capisce cosa significa stampo quotidiani tutte le sere. Sì. Volevo darvi uno scoop sensazionale. Qual è lo scoop? Non c'è ancora la stampa, è ancora presto? Sì, ancora presto, però vabbè, io so, visto l'esperienza pluriennale nelle elezioni, allora il titolo dell'Unità è ha vinto l'anti-berlusconismo, il titolo del Libero abbiamo fatto il mazzo a quelli della sinistra, il titolo del Messaggero avrà vinto la Bonino, se alla Bonino vincerà, oppure abbiamo reso la vita impossibile a quelli del centrodestra, come tutte le elezioni da 15 anni a questa parte, per quello che mi riguarda, perché poi prima sono troppo giovane per avere riscontri, avranno vinto come sempre tutti quanti, non ci sarà uno sconfitto. Beh, soprattutto alle elezioni regionali naturalmente si possono fare tanti conti, le elezioni, chi aveva le regioni prima, quante ne sono state conquistate adesso, il computo generale delle regioni, considerando anche quelle che, per le quali non si votava, dunque qualcuno farà il calcolo su 20 regioni, eccetera eccetera, e poi l'aumento di qui, la Lega che guadagna sul PDL, dunque non c'è ci sono problemi all'interno del centrodestra, e invece il centrosinistra tiene, insomma ognuno avrà, come lei dice, la sua interpretazione. Eccoci qui, 2011 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Antonio da Salerno, buonasera. Pronto, buonasera dottore. Innanzitutto, dica. Complimenti per la trasmissione che seguo sempre ogni sera qui anche con la mia compagna in auto. Dunque, volevo fare due considerazioni, un paio di considerazioni. Il centro-sinistra, lei ho potuto seguire nelle trasmissioni anche passate, è stato anche giustamente, forse in molti casi, sarcastico col centro-sinistra, però io telefono da Salerno, in Campania si è presentata per il centro-sinistra una persona che ritenevo e ritengo ancora una persona molto valida, una persona che esprime un modo di fare la politica, e sto parlando di De Luca, sì. Forse molto innovativo. Sì, Antonio, lei per carità, insomma, va benissimo gli elogi che sta facendo del suo sindaco, eccetera. Guardiamo anche i risultati di adesso, De Luca paga anche per altre... Probabilmente per... No, ma io non mi volevo fermare soltanto a De Luca, sinceramente. La mia considerazione era... Lei è partito con De Luca, abbia pazienza. Sì, no, perché sono campano e ovviamente volevo dare... Ma sto vedendo anche la situazione in Piemonte. A detta di tutti, in Piemonte la Bressa, la signora Bressa, ha governato bene. Ora viene il leghista Cota, non per niente, il leghista in Veneto è giusto che prenda il 30%, perché non so, in Veneto saranno 20 anni che governa Verona, c'è Treviso, c'è, governerà bene, è giusto che il rappresentante leghista sia premiato, ma che in Piemonte vada il primo leghista che capita, Cota, e mi trascina la PDL a battere Bresso che ha governato bene, questo non me lo so spiegare. Antonio, il problema è che innanzitutto, Cota non è l'ultimo degli arrivati, Cota è una persona abbastanza... Insomma, non è l'ultimo degli arrivati, però la Lega... Sì, ma che significa non se lo sa spiegare, Antonio? Non me lo so spiegare, io questo ho premesso anche nel prima che ho parlato con le assistenti. L'impressione è che qui il centro-sinistra possa schierare anche il Palermo, ma venga sempre sconfitto. Ecco. No, ma dipende dalle regioni, naturalmente. E poi, ripeto, in Piemonte e Lazio ancora non si può dire nulla, perché tutto è ancora possibile. La ringrazio, Antonio. Giovanni da Cremona, buonasera. Dottore, buonasera. Innanzitutto, dica. Complimenti, mi congratulo con lei per la trasmissione. Anche perché mi fa molta compagnia, visto che sono ancora in macchina, sto ancora lavorando, sto transitando dal Veneto alla Lombardia. No, volevo solo intervenire in qualità di consigliere comunale di un piccolo comune del nostro territorio. Sono da sempre un elettore di centrodestra, da sempre seguo da vicino le vicende del PDL, però mi permetta e mi consenta, come dice il carissimo Silvio, di spezzare una lancia a favore della Lega. Chi non conosce la Lega da vicino, mi creda, io non ho mai votato Lega. Sono persone concrete, sono persone che si assumono degli impegni, li portano a termine, sono persone e gruppo dirigente della Lega che è molto molto vicino alla popolazione, ai problemi della popolazione. Non è un caso che la Lega in questi ultimi anni sia in ascesa. Io non so se lei possa condividere il mio pensiero, ma non sono... persone nate dal nulla, non si improvvisano, hanno un percorso dietro, sono efficaci, sono efficienti, si documentano, mi creda, io non so se lei... No, ma Giovanni, guardi, io tocco con mano queste cose anche nelle mie piccole esperienze quotidiane, sono abbastanza d'accordo con lei sul fatto che sicuramente in molti casi si tratta di persone... che hanno un rapporto col territorio molto stretto. La ringrazio. Siamo qui alle 20:16, 800 24 00 24, in onda fino alle 22 con i vostri interventi questa sera, naturalmente elezioni regionali e risultati a go-go. Paolo da Monza, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io ho visitato oggi diversi siti dei giornali, avevano delle schede con le diverse regioni. E ho notato che facevano un riferimento che la legge nazionale prevederebbe massimo due mandati, a parte Formigoni che era già in carica al momento dell'approvazione. Quindi mi chiedevo, anzi volevo chiedere a lei, magari conosce la risposta, regioni come Marche, la stessa Lombardia con Formigoni appunto, e l'Emilia Romagna che avrebbero il candidato al terzo, rischiamo fra qualche mese un nuovo verdetto? Paolo, è una questione già lungamente dibattuta durante la campagna elettorale. Lungamente dibattuta, non c'è nessuna possibilità di un ribaltamento del risultato elettorale. Uno può giudicare naturalmente questa cosa una trovata di chi ha approvato la legge, che l'ha fatta scattare, la legge sul limite dei mandati, non retroattivamente ma solamente dal momento in cui la legge è stata approvata. Dunque i nuovi mandati di Formigoni e Errani, che si profilano ormai all'orizzonte, sono perfettamente nella norma. Ma ripeto, Paolo, magari lei non è informato, per carità, però non è un obbligo. Sulla questione ci sono state discussioni infinite durante la campagna elettorale, forse anche eccessive. Appunto le facevo una domanda, cioè volevo sapere. No, ma le rispondo in questo modo, cioè sulla questione del terzo, in alcuni casi del quarto mandato, insomma si è già discusso e non ci sono problemi dal punto di vista legale. Paolo, la ringrazio. Andiamo a controllare la situazione in Piemonte, perché insomma il voto è ancora molto aperto, la situazione è molto aperta. C'è una cosa chiara però, il buon risultato ottenuto dai movimenti di Beppe Grillo, 5 Stelle Piemonte, sia in Piemonte che in Emilia Romagna, ma direi un po' dappertutto. Allora la domanda è questa, siccome sono voti che adesso noi giornalisti magari classifichiamo più vicini al centro-sinistra, beh insomma per l'Abresso sarebbe stato sicuramente più semplice battere Cota di quanto non lo sia adesso alle 20:18, dove la situazione è ancora molto in bilico. Davide Bono, buonasera. Buonasera. Bono, lei se ne fregherà di questo aspetto probabilmente, no? Della vittoria o di Cota o dell'Abresso, perché comunque insomma avete ottenuto un buon risultato, oppure vi interessa il risultato finale in Piemonte? No, assolutamente, noi non ci interessa che sia uno o l'altro a vincere, perché è giusto che sia così. Noi vogliamo parlare di idee, di proposte e di metodi di fare la politica, quindi assolutamente gli elettori hanno giudicato secondo noi sia il centrodestra che il centrosinistra, e ci hanno dato quindi fiducia in circa 50-60 mila elettori in Piemonte, che è il 3%, e quindi sicuramente un elettorato secondo noi molto forte, molto cosciente, molto coerente, molto informato soprattutto. Quindi assolutamente non è. Ma non c'è stato nessun momento in cui voi avete pensato di allearvi magari col no, perché c'è la questione della TAV là di mezzo, importante, no? Al di là delle decisioni meramente programmatiche, il fatto che noi non siamo un partito, noi siamo un movimento che non è gerarchico, non ha strutture quindi di partito, non ha sedi, non ha tessere, non ha segretari di partito, quindi diventa veramente improponibile pensare di allearsi con altri. Un'alleanza altri sarebbe stata impossibile, insomma, con chiunque. Senta, mi faccia una sua previsione, lei che insomma immagino sta seguendo anche lo scrutinio. No, c'è una piccola discrepanza, ma questo è normale perché naturalmente i dati delle sezioni arrivano abbastanza casualmente, tra le proiezioni e il dato dello scrutinio, diciamo, ufficiale, dei voti veri. Molti ascoltatori mi scrivono che ancora devono arrivare al Viminale i dati delle province dove la Lega ha ottenuto più voti. A livello di scrutinio la situazione è 47,4 e 47,3, con una differenza di poco meno di 1000 voti. Qual è la situazione secondo lei? Sì, secondo me è così. Noi stavamo guardando anche noi, mancano i dati in cui la Lega è più forte, quindi a Torino il centro-sinistra storicamente è sempre stravinto, mancano i dati delle province più forti al centro-destra in mano alla Lega, quindi purtroppo sembra che il destino per l'Abresso è scappato un purtroppo, però Bono, è scappato purtroppo per l'Abresso o purtroppo anche per voi? No, noi non... Cioè voi non fate distinzione tra la vittoria di un candidato leghista e la vittoria di Mercedes Bresso? No, perché saremo comunque sempre all'opposizione, quindi no, certo. Come dialogheremo? Noi dialogheremo sulle idee, non sulle ideologie. Sulla TAV i due candidati tra l'altro hanno posizioni abbastanza simili, no? Ma, sì, sul TAV si è espressa a volte più contraria sicuramente la Lega Nord che il PD, quindi magari ci può essere addirittura più dialogo su quell'argomento lì. Però non la Lega Nord, diciamo, a livello nazionale, però è vero che alcuni esponenti locali, a livello locale, alcuni leghisti si sono schierati diciamo insieme alle popolazioni contrarie, diciamo, alla costruzione della TAV. La discussione sarà sul programma e spero che ci sia dialogo da una parte o dall'altra, che sappia di quella che ha vinto, sull'idea meno di buon senso. Senta Bono, mi tolgo una curiosità, secondo voi, io sto vedendo adesso i dati come vengono scrutinati, no? Questa lista dei grilli parlanti no euro, 2380 voti, quella famosa di Rabellino, ma quelli son voti secondo me vostri, la lista dei grilli parlanti oppure non lo dica no? A me. Eh? Non lo dica a noi, purtroppo è questo il livello a cui siamo arrivati della politica. Si è deteriorata dal punto dal personalismo, siamo arrivati alle liste civetta, quindi dunque quelli sono voti che lei considera vostri, cioè. Al 90% sì, 90% anche perché rispetto alle altre liste che ha messo insieme Rabellino, effettivamente questa lista 2380 voti, lista dei grilli parlanti, ha preso molti più voti rispetto agli altri, sì. No? Così che addirittura qualcuno ha segnato delle preferenze sui nostri cognomi all'interno di fianco al simbolo della lista grilli, quindi adesso stiamo valutando se riescono a farli attribuire a noi, perché la preferenza nominale dovrebbe essere più forte. Beh, quello mi pare difficile, insomma. Adesso stiamo infatti valutando nei vari seggi, litigando nei vari seggi, però sicuramente speriamo che sia. Normalmente dovrebbero essere annullate, mi sembra, no? In teoria dovrebbero essere annullate, o sbaglio? Non lo so, stiamo discutendo lacrimente nei seggi dove ci sono i nostri rappresentanti. E va bene, la sua previsione qual è, Bono? La vittoria finale, Cota vince di quanto? Di poco vince, Cota sicuro? Vince di circa 1%. Circa dell'1%. Sì. Grazie, grazie Davide voi, Bono, grazie, Movimento Beppe Grillo. 3,9 secondo lo scrutinio, insomma un buon risultato. Qualcuno dice voti tolti al centro-sinistra, con questi da Bresso avrebbe vinto facilmente, però non è un ragionamento che si può fare così facilmente. Stefano da Salerno, andiamo da Torino al sud, eccoci qui. Sì, buonasera. Buonasera Stefano. Dunque io chiamo per analizzare un attimino, diciamo velocemente, il voto proprio in Campania, se mi è possibile. Il candidato del centro-sinistra, De Luca, in effetti ha condotto una campagna elettorale molto isolato. Io devo dire la verità, sono rimasto un po' deluso dall'atteggiamento anche del Partito Democratico stesso. Ma isolato da che cosa, mi scusi? Isolato perché non ha avuto alcun padrino, mettiamola così, cioè alcun appoggio dal partito stesso. I bassoliniani non l'hanno appoggiato, lei dice, insomma il partito ventre del Partito Democratico. Lei da persona arguta, quale la conosciamo, essere andato subito al centro della questione. E purtroppo Bassolino proprio non ha sostenuto il candidato. Però Stefano, io mi permetto di dire, pur non conoscendo bene la situazione in Campania, io non credo che poi Bassolino avesse ancora granché da spendere da questo punto di vista. Io credo che la sconfitta è abbastanza inevitabile. Ecco, mi consenta, giusto, probabilmente proprio perché non conosce la situazione campana, io posso dirle che De Luca ha avuto un'affermazione nella sua città, cioè a Salerno, quasi attorno all'80%. Questo penso che la dica lunga sulle capacità di ottimo amministratore quale De Luca. E però altrettanta visibilità in tutta la Campania non è riuscito ad avere, un po' perché il partito non lo ha aiutato. Lei deve pensare solo una cosa, mi scusi due secondi. Sì. Quando c'è stata quella famosa manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma e si è parlato di 150.000 persone eccetera, non lo so quanti saranno stati, nella stessa serata, cioè parliamo di due sabati fa, De Luca in piazza del Plebiscito è riuscito a riempire una piazza che allo stesso modo c'erano riusciti solo Berlinguer e Almirante. Questo la dice lunga sull'informazione, sul bavaglio all'informazione che c'è stata e anche sulle capacità letteralmente organizzative del Partito Democratico. Questo volevo mettere in risalto. Va bene Stefano, grazie. Intanto a Salerno De Luca naturalmente 58%, Caldoro 40%, questo è il dato di Salerno città, ma insomma è abbastanza scontato. Fabio da Cremona. Buonasera Cruciani, innanzitutto complimentarmi alla trasmissione che ascolto sempre. E volevo dire che niente, oggi sono andato a votare nella mia scuola elementare, io sono un elettore di centro-sinistra di 45 anni. Sì. E premetto che non ce l'ho con Berlusconi, perché affinché viene eletto democraticamente è giusto che stia dov'è. E comunque, finito il voto, ho avuto bisogno di andare un attimo in bagno. Niente, allora le dico. Scusi, mi spieghi perché, Fabio? No, le dico. Allora, quando sono entrato ho visto i bagni di 40 anni fa, le porte di 40 anni fa, mi è venuto in mente che la scuola... Ah, in questo senso, dice lei. E allora mi sono detto, io sto per avere un figlio tra 15 giorni, mi sono detto, ragazzi, ma andiamo a votare che cosa? Che paese è quello? Beh, anch'io ho votato in una scuola abbastanza fatiscente, devo dire. Comunque in una vecchia scuola di quelle là, dove i mobili sembrano essere gli stessi da 30-40 anni. Quando ero proprio bambino, e quindi vabbè. Niente, una delusione della politica in generale, ecco, anche se poi il mio dovere istituzionale l'ho fatto. Grazie Fabio. Allora, la situazione in Piemonte: 1946 sezioni su 4835, Cota è passato in vantaggio con 333.532 voti, 47,4 contro 47,2 della Bresso, 332.205. Ripeto, 2.000 sezioni quasi su 4835, è presto, però insomma, c'è un trend a favore di Cota, sembra. Angela da Roma. Buonasera Cruciani. Buonasera Nica. Io sono un'elettrice di sinistra, negli ultimi anni sono sempre andata a votare turandomi il naso, però sinceramente preferisco turarmi il naso piuttosto che delegare a qualcun altro una scelta, insomma, cioè questa astensione dal voto mi sembra che faccia valere di più i voti degli altri, sinceramente, quindi non mi trova d'accordo in questa delega. Nel panorama italiano diciamo che i partiti sono sempre tanti, quindi fra tanti partiti qualcuno che magari si avvicina un po' di più alle nostre idee dovremmo cercare di trovarlo. Lei è contraria dunque all'astensionismo? sono assolutamente contraria all'astensionismo, perché appunto, ripeto, mi sembra di delegare a qualcun altro delle decisioni che in fondo sono mie, insomma, sono le uniche cose che forse ancora ci rimangono per poterci esprimere. Ma io la penso come lei, infatti vado quasi sempre a votare, a meno che non ci siano cause di forza maggiore. Credo che l'ultima volta che non sono andato a votare era al ballottaggio per il sindaco di Milano, se non sbaglio, se c'è stato poi un ballottaggio non ricordo, penso di sì, no forse no, quello con la Moratti, forse un ballottaggio c'è stato, non andai al secondo turno perché non ero in Italia, ma insomma se c'è stato poi un secondo turno non mi ricordo bene, forse no, però insomma vado quasi sempre. Alessandro da Verbania. Sì, buonasera. Io ho sentito alcuni interventi che si rifacevano al discorso dei programmi. Ecco, io trovo ipocrita questo tipo di interventi, in quanto ritengo che in Italia non si voti e non si giudichi la politica sulla base dei programmi. Il voto, diciamo, in Italia è un voto puramente di appartenenza ideologico, tant'è vero che non c'è da stupirsi che non costa mai nulla. Nessuno controlla quello che è poi il realizzarsi di questi programmi, e quindi alle future elezioni non si cambia il modo di votare in base al fatto che siano stati rispettati oppure no. Quindi diciamo che se lei dice questo continuare a ripetere i programmi è anche un po' ipocrita, perché poi la verifica e il controllo sull'attuazione di questi programmi non c'è mai, non ci sono mai. Va bene, grazie. Eccoci qui alle 20.34, 800 24 00 24, in diretta con la Zanzara fino alle 22 per commentare i risultati elettorali. Silvestro da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, subito, per quanto possa valere, vorrei manifestarle il mio apprezzamento per il suo modo di condurre. Io spesso non approvo quello che lei dice o comunque quello che lei sostiene, però mi piace tanto il suo modo di darsi impasto, diciamo così, alle critiche degli altri. Adesso la mia telefonata non verte assolutamente su questo, comunque glielo volevo manifestare per quanto possa valere. Grazie, dica pure. Allora, io la scorsa settimana ho avuto ospiti a casa mia una coppia di amici greci che stavano appunto in Italia, parlano abbastanza bene l'italiano, stavamo seguendo sì, delle trasmissioni, e a un certo punto è comparso l'onorevole Casini a fare un suo intervento, in cui alla fine del quale questa coppia mi ha chiesto se Casini stava all'opposizione, ma soprattutto se era alleato con Di Pietro o comunque con i comunisti, mi hanno detto loro, per il suo modo di esprimersi contro Berlusconi. In effetti in quell'intervento Casini sembrava veramente uno di Rifondazione, un dipietrista convinto. Subito dopo ci fu poi l'intervento di Berlusconi, che invitava a non votare Casini perché appunto era un voto perso, e lì proprio è nata la difficoltà, cioè la difficoltà di spiegare a questi amici che l'UDC era candidata con Berlusconi in tante regioni e in alcune altre con i DS e in altre correva da solo. Io sinceramente a livello personale mi auguravo che queste elezioni, ma soprattutto forse sarebbe più alle politiche, insomma, che questi partiti in questo modo, che io mi consenta definisco mastelliani, facessero una brutta fine, perché questo mi sembra un modo di fare politica squallido. Lei non ha capito la scelta fatta dall'UDC di fare alleanze un po' a macchia di leopardo in tutta Italia, decidendo da una parte di andare col centro-destra, da una parte col centro-sinistra. Silvestro, da quello che io posso capire dai risultati elettorali, non vorrei offendere nessuno, mi sembra che sia stata una scelta anche poco capita dagli elettori stessi dell'UDC, mi sembra. Marco da Cremona, buonasera. Buonasera Cruciani, sono Marco. Dica. Da Cremona, 46 anni, volevo prima di tutto rispondere all'amico che ha chiamato prima definendo la Lega xenofoba e asserendo che in un paese normale non ci sarebbe un partito del genere. Prima di tutto non penso ci sia solo xenofobia dietro i risultati della Lega, né quelli di prima né quelli di adesso. Trovo che sia un partito molto collegato col territorio, dove la gente addirittura conosce le persone personalmente, non saranno delle cime ma sono sempre del posto. Casi come, che ne so, il mio compaesano cinese che si candida a a Bologna non sarebbe mai successo, ecco, fare il sindaco. Comunque sia, negli altri paesi ci sono partiti autonomisti, voglio dire, Aznar ha governato 10 anni con l'appoggio del partito catalano anziché quello asturiano, anziché altri partiti delle isole, come anche in Scozia il governo viene a patti col partito di Sean Connery, che sì, non sarà certo Umberto Bossi, ma comunque è sicuramente più spendibile, ecco. Io trovo che i leghisti paghino le tasse, siano gente non così del posto, come, cioè, tutta gente del posto, radicata nel posto, e non vedo perché non possa votare un partito del posto, voglio dire. Marco, infatti nessuno nega il radicamento della Lega. Bene, Luca da Milano. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Questa sera ho chiamato perché per l'ennesima volta a me piace sempre, l'unica cosa che mi interessa degli exit poll e gli esiti delle elezioni, continuare a sentire personaggi, insomma, che perdono, come riescono a girare la frittata e dimostrare sempre di aver vinto. Solo che stasera mi è stato impossibile continuare a sentire anche personaggi come Letta, Enrico Letta, dove pur perdendo 4 regioni hanno mantenuto, diciamo, le loro posizioni, hanno concretizzato i voti eccetera, ma dico, una persona che vota a sinistra anche come ultima spiaggia, sperando che come possono pensare di continuare ad abbindolare la gente così? Cioè, con 4 regioni in meno, tu mi stai dicendo che ancora è andata bene, la tua preoccupazione non è di quello che succederà eccetera, ma di come la Lega si porrà nei confronti della PDL eccetera. C'è proprio un attimo solo, prego. Renzo Bossi, credo per la prima volta, che sta portando grandi cambiamenti nel nostro paese, e sicuramente il federalismo è quello che prima fra tutti verrà portato avanti la Regione Lombardia. Ecco, io saluto adesso Massimo Franco, che è qui con noi questa sera. Buonasera, notista del Corriere della Sera. Mi fai un rapido commento prima della pubblicità? Rapidissimo. Secondo me ha vinto la Lega, innanzitutto. Bisogna capire, con la situazione in Piemonte, se questa vittoria prende le dimensioni di un quasi trionfo o no. Per il resto bisogna aspettare bene, di capire bene cosa è successo, ma certamente mi pare che la diarchia fra Berlusconi e Bossi esca, se non rafforzata, confermata da questo voto. Bene, parole chiarissime, ma ci sono ancora molti altri temi da discutere su queste regionali. Pubblicità, restate con noi. Va bene, insomma, il titolo della puntata di 8:30 è abbastanza centrato, Lazio e Piemonte al photo finish. Avete sentito prima la voce di Renzo Bossi, pare votatissimo a Brescia, come votatissima, almeno da quello che traspare finora dai risultati, è Adriana Poli Bortone. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie, abbastanza. Senta, molti dicono una cosa in queste ore in cui pare che si stia realizzando, diciamo, la conferma di Vendola, che una candidatura unitaria, diciamo, dell'area moderata in Puglia avrebbe portato sicuramente a un successo. Naturalmente i numeri dicono questo, perché se uno somma i voti del centrodestra con i voti che ha preso, diciamo, la sua coalizione, chiamiamola così, insomma, con i partiti che la sostengono, insomma, il dato è abbastanza inequivocabile. Lei è d'accordo? Attualmente sì, è un dato molto parziale, perché ho visto che le operazioni vanno... Non sentiamo nulla, proviamo di nuovo un collegamento. No, la sento malissimo, cerchiamo di ripristinare un collegamento migliore, altrimenti è assolutamente inutile. Alfredo dalla provincia di Modena. Buonasera, dottor Luciani, complimenti per la trasmissione. Riguardo a quello detto dall'esponente delle liste Grillo, credo Piemonte, visto che sono fresco di seggio, finito giusto alle 6, gli volevo purtroppo dare la ferale notizia che se il voto è stato espresso con una croce sul simbolo di un partito, questi Grilli, no, Euro, quello che erano, sì, e dato una preferenza al suo movimento, mi sa che si troveranno con un voto di lista valido ai Grilli, no, Euro, e una preferenza nulla per il loro candidato. Cioè, prevale che cosa? Mi scusi, Alfredo, prevale il voto? Prevale la croce sul simbolo. Non ci fosse stata la croce sul simbolo, prevaleva la preferenza. Ma se c'è la croce sul simbolo, prevale la croce. Cioè, non si annulla il voto? No, nel senso che c'è da cercare di salvare la volontà dell'elettore, ma c'erano proprio anche gli esempi in fondo alla libretta. siccome i voti sono gerarchicamente, diciamo, ci deve essere un voto valido per le regionali. Sì. Poi, per esserci una preferenza, ci deve essere un voto valido di lista. Se io annullo il voto di lista, annullo anche la preferenza. In quel caso avremmo avuto un voto di lista valido con una preferenza nulla da registrare all'interno di un'altra lista. E si fa. Dopodiché la roba finisce in tribunale, ci guardano in tribunale. Che alla fine ricontano e guardano. Ma sono molti i casi di questo tipo che lei... Ma io personalmente non, praticamente non ne ho avuti. Ho avuto qualche scheda nulla, ma Emilia Romagna, un seggio con un'età media tutto sommato ragionevole, praticamente nessuno. Tra l'altro, nel corso degli anni, esperienza decennale, lo faccio da parecchio il presidente, pian pianino le nulle, le bianche calano, perché poi sta gente le faceva apposta, un po' quelli che le facevano perché si sbagliavano ci stanno lasciando graficamente, e quelli che le facevano apposta si stanno stupando di venire. Va bene Alfredo, grazie, grazie. Comunque insomma, le contestazioni ci sono anche per questo, anche se poi alla fine sono casi limitati. Certe volte si decide sull'elezione o meno di una persona nelle regioni, sulla base poi del riconteggio delle schede, sui voti sbagliati, sui doppi voti, sui nomi messi e sulle X da una parte o dall'altra. Vincenzo da Roma, buonasera. Buonasera, io volevo dire... In merito all'astensionismo, io sono uno che si è astenuto, ero andato a votare, poi però sono arrivato davanti al seggio e mi sono trovato a scegliere tra tante persone di cui non conoscevo né il nome, ma soprattutto di cui non conoscevo un curriculum. Io lavoro, premetto che lavoro in un'azienda multinazionale americana, e quindi mi sono trovato di fronte tante persone e nonostante io fossi andato sui diversi siti per poter cercare il curriculum di queste persone, non ho trovato niente che mi desse un'immagine, una chiarezza di chi fossero queste persone. Allora mi sono trovato lì e ho detto, ma perché devo votare persone di cui non conosco le competenze, non conosco quello che potrebbero fare per me, fossero esse di destra o di sinistra. Quindi io ho approvato l'astensione e, come un segnale verso questa politica, che secondo me, o meglio, verso questi partiti che in questo momento non sono capaci di aggregare o comunque di raccogliere delle persone. Sì, però che Vincenzo, mi scusi, mi faccio un po' replicare quello che sta dicendo. Se uno vuole informarsi sui singoli candidati, io penso che ci sia il modo per farlo. Ma io sono andato sui siti dei diversi non ho trovato un curriculum. Non penso di dover andare. Il caso di Roma potrà magari. È diverso, di solito se uno si vuole informare su un singolo candidato ha la possibilità di farlo anche attraverso appunto internet. Anch'io sono come lei, io non si mette in moto quella volontà di conoscere il singolo candidato, dunque non do mai preferenze e voto sempre per una lista. Però se io devo pensare che quella lista si appoggia con delle persone con delle competenze, io ho uno staff di 7 persone sotto di me, ognuno ha le sue competenze, ognuno governa una sua area. Chi nel finanziario, chi nel commerciale, chi negli approvvigionamenti, ognuno ha le sue competenze e risponde per le sue competenze. Io lì non saprei a chi fidare, tranne una o due persone di cui posso conoscere, magari è laureato, magari ha delle competenze, un'esperienza, non laureato ma diplomato, e ha fatto tanta esperienza in ragioneria, in gestione di cassa, di tesoreria e via dicendo. Invece non è stato possibile informarsi, perché non c'è una persona che ha inserito il proprio curriculum per capire chi fosse. Bene, grazie Vincenzo che ci ha spiegato i motivi della sua astensione. Bene, 20:46 in diretta fino alle 22 per commentare i risultati delle elezioni regionali. 8:30, andiamo. Quagliariello, PDL. No, però scusi senatore, restiamo al nord, alla Lega, anche perché mi dicono che abbiamo collegato con noi Umberto Bossi da Milano tra pochi minuti. Aspetti, fermiamoci un attimo alla Lega. Onorevole Bindi, siccome anche voi sarete preoccupati dell'avanzata della Lega perché sta mangiando voti anche al PD, per esempio. In Emilia Romagna hanno ottenuto il 13% in queste elezioni. Non so a chi mangiano i voti, indubbiamente però la Lega si sta affermando sempre di più al nord e si sta anche espandendo. Certo che siamo preoccupati perché la Lega che abbiamo visto in queste elezioni è la Lega delle saponette, è la Lega della taglia per chi denuncia i clandestini. È la Lega dei bambini messi a pane e acqua se non pagano la retta delle scuole. E quindi adesso le risponde subito Umberto Bossi. Ci colleghiamo allora con Milano. Però, se questa è l'analisi del fenomeno Lega da parte di Rosi Bindi. Congratulazioni siamo... per il grande successo della Lega. Sentito, sentiamo la risposta di Bossi. Bindi. Vabbè, ma sei sempre esagerata la Bindi. Ma no, la Lega è un partito popolare, il popolo si riconosce nella Lega, tant'è vero che ci vota. Senta, il senatore... Capisco la rabbia. Mi scusi, il senatore... Capisco la rabbia. Prego. PDL forse, non la mia. Pronto, agli ordini, agli ordini. No, lei senta, ma scusi, Bossi, mi pare di capire che da quello a cui accennava il senatore Quagliariello, al nord la Lega, al centro-sud il PDL, questa è... E la spartizione dei compiti dopo queste elezioni? No, guarda, non è così. Il PDL è l'unico partito che è riuscito a resistere allo tsunami della Lega. La Lega ha scatenato lo tsunami. Quante persone avete ucciso? E ha vinto ovunque. Con lo tsunami, quante persone avete ucciso? No, noi non uccidiamo. La gente ci ha votato perché siamo il partito che spinge per il cambiamento, per le riforme del paese. Per questo ci ha votato la Lega. Senta, Bossi, Quagliariello ha detto che si possono fare parallelamente le riforme, sia i decreti attuativi per il federalismo che lei ha detto la gente adesso vuole ad ogni costo, che quelle riforme che stanno molto a cuore a Berlusconi, come la grande riforma sulla giustizia e quella sulla legge sulle intercettazioni telefoniche. Io non sono uno che pensa che le riforme che spinge la Lega sono le uniche, ce ne sono tante altre che vanno fatte, le faremo, se ci sono i voti le faremo. Onorevole Bindi, vede tra Berlusconi e Bossi una diarchia, come la chiamava prima Massimo Franco, inossidabile a questo punto? Io vorrei sapere che fine fa l'Italia in questa diarchia, perché se fino adesso lo scambio è la scatola vuota del federalismo, Umberto, la scatola vuota del federalismo, perché fino adesso di questo si tratta, perché... Anche noi ci siamo astenuti e abbiamo fatto la nostra parte. Aspettiamo i conti di Tremonti, che però non arrivano, e quindi per adesso è una scatola vuota. Lo scambio fino adesso è stato qualche bandierina da portare al nord, la scatola vuota del federalismo e l'inasprimento. Va bene, insomma, si comincia a parlare di federalismo fiscale e noi andiamo di nuovo agli ascoltatori. Continuo a pensare che l'analisi del voto dato alla Lega, fatto da Rosi Bindi all'inizio, la Lega delle saponette, la Lega, sia assolutamente sbagliato. Dove andiamo? Marco D'Asti. Pronto? Prego, dica. Sì, buonasera. Niente, io volevo soltanto limitarmi a commentare il fatto che il figlio, mi pare che sia di Bossi, abbia preso tanti voti nel bresciano. Se non ricordo male, qualche tempo fa era balzato alle cronache perché aveva avuto due o tre tentativi per conseguire la maturità. Mi pare che questo dato confermi il fatto che gli italiani, comunque, a prescindere da tutto, votino sempre all'insegna della continuità, i figli di Pietro, i figli di Bossi, cioè, non vedo una cosa, come dire, di innovazione nel votare il figlio di Bossi. Guardi, che peraltro... Marco, no, sì. Ma ho capito quello che lei vuole dire, per carità, il dato del familismo e delle tradizioni familiari è abbastanza triste. Non so se sia triste, comunque è un dato sicuramente abbastanza costante nella storia italiana. Però allora dobbiamo deciderci: quando non ci sono le preferenze non va bene perché c'è la lista bloccata. Quando ci sono le preferenze non va bene perché c'è Renzo Bossi che può prendere magari 20-30 mila voti a Brescia. Cosa vuole che le dica? Mi sembra che ci sia un po' di schizofrenia in queste analisi. Uno prende i voti e prende i voti. Se Renzo Bossi ha preso i voti, certamente il nome Bossi pesa. Certo. Vediamo come si comporterà come consigliere regionale di Lombardia. tanto lui, come dire, camminerà sulla scia del padre. Certo è che da quello che si è sentito dire della Rosy Bindi un attimo fa. Ma guardi, alla prima domanda questa sera 8:30 che è stata rivolta alla Bindi sul successo innegabile elettorale della Lega, la Bindi ha risposto: beh, sono molto preoccupata perché è il partito delle saponette, il partito di quelli contro gli immigrati, i bambini immigrati a scuola. Se questa è l'analisi del voto della Lega, non lo so. No, ma difatti io sono sempre stato un pochino così a guardare in maniera un pochino perplessa il fenomeno Lega. Adesso mi sembra che il fenomeno Lega abbia avuto la capacità di collocarsi in maniera trasversale a prendere voti che una volta erano della sinistra, del centro-sinistra, proprio perché comunque la capacità di proporre un qualcosa da parte del centro-sinistra non c'è. Sì, no, ma al di là di questo, adesso bisognerà vedere poi, naturalmente, la Lega alla prova del voto, alla prova, scusi, del governo in una regione importante come il Veneto e forse in una regione come il Piemonte, perché finora c'è stata l'amministrazione dei piccoli centri. Quando è stato per esempio il caso dell'amministrazione di Milano tanti anni fa con Formentini, le cose non andarono proprio benissimo. Grazie Stefano Menichini, buonasera, direttore d'Europa. Buonasera. Ciao Stefano. Allora, la prima analisi del voto, mi sembra che ci sia a risultati ancora in bilico in Piemonte e nel Lazio una certa delusione nel centro-sinistra. Adesso, lo dico al di là del risultato che può essere poi alla fine positivo nel Lazio, però nel Lazio si sa, il centrodestra avrà sempre l'arma di dire con la lista del PDL a Roma sicuramente avremo vinto e chissà poi come andrà a finire la situazione nel Lazio con ricorsi, contro ricorsi eccetera. E la vittoria di Cota in Piemonte come si profila dalle proiezioni e forse anche adesso dallo scrutinio è certamente finora il fatto più rilevante, o no? Ma dunque, diciamo, prendiamo le questioni una alla volta. La delusione del centro, del Partito Democratico, secondo me è un po' sospesa per aria, nel senso che è una delusione che può rovesciarsi nel suo contrario se Lazio e Piemonte finiscono meglio di come stanno adesso. Casomai c'è un po' di delusione in questo momento perché, per essere franchi, si sperava negli ultimi giorni che sia nel Lazio che nel Piemonte sarebbe stata un pochino più facile di come in effetti è, e questo dal punto di vista psicologico, che poi la psicologia conta molto in queste ore, diciamo così, può dare questa impressione. Il fatto che il Piemonte sia diventato così importante come risultato, persino per certi aspetti più del Lazio, Lazio e della Puglia, che erano insomma le tre regioni un po', dipende dal dato parallelo del successo ampio della Lega, per quanto prevedibile, comunque impressionante come partito e come candidati e anche come, diciamo, il suo ingresso nelle aree al di sotto del Po. E questo è, se si aggiungesse anche la vittoria di Cota in Piemonte, diventerebbe il dato macroscopico di queste elezioni regionali. Io oggi, adesso stiamo chiudendo il giornale, a parte il titolo d'apertura che facciamo appunto sull'unica cosa titolabile in questo momento, Padania, certo. Diciamo così, scrivo che alla fine degli anni di queste elezioni forse quello che alla fine si ricorderà sarà principalmente questo dato qui, che secondo me è anche abbastanza nel medio termine irreversibile, cioè il centro-sinistra si dimostra non in grado di arginare questo successo della Lega, e il PDL e Berlusconi le stanno consegnando le regioni più ricche del paese con un travaso di voti che, guarda, alla fine quando lo andremo a contare è abbastanza impressionante. Glielo stanno consegnando senza prospettive di recuperarlo, di riprenderselo. Voglio dire che la Lega ha dimostrato di essere molto capace anche a capitalizzare e a tenere i propri consensi, amministrando in maniera discutibile, ma insomma amministrando più o meno bene nel territorio. Quindi il dato di oggi, l'unico che a questo punto della serata possiamo dare per certo, cioè questo ampio successo della Lega, secondo me è quello che avrà la maggiore impatto sul sistema politico nazionale. Bene, grazie. C'è il giornale radio delle 19, grazie a Stefano Menichini, direttore d'Europa. Eccoci qui di nuovo in diretta, la Zanzara fino alle 22 per commentare le elezioni regionali, i risultati delle elezioni regionali. Abbiamo ancora Bossi a 8:30, sentite. Vediamo come va il Piemonte prima, va. Sei in ritardo, abbiamo vinto anche in Piemonte. Vediamo un po', aspettiamo. Ma Bossi e la Puglia non era importante per il centrodestra? Era importante, sì, lì, hanno fatto degli errori. Quali? Quali errori, Bossi? Lo sanno loro, non solo me. Beh, hanno ritardato a mettere i candidati giusti. Sono partiti troppo tardi. Senta, ma se vincesse... Comunque, insomma... Se vincesse... Se vincesse l'onorevole Bonino nel Lazio, ci sarebbe un problema anche per quanto riguarda il centrodestra rispetto all'Episcopato Cattolico? Lei giustamente ha detto che Berlusconi si è offerto come difensore, come diga su alcune cose. Se vincesse la Bonino nel Lazio, certo, secondo lei voi avreste dei problemi con le gerarchie cattoliche? Che ce l'abbiano abbastanza. Ma no, ma speriamo di no. Le gerarchie cattoliche sanno bene che. Non mi pare. Sanno bene. I vescovi sanno teneri sull'immigrazione, eh? Non mi pare. Non mi pare. Che siano stati teneri sull'immigrazione i vescovi, eh? Quindi mi pare che i problemi probabilmente li abbiamo tutti. Facciamo i ragionamenti giusti. Punto. Noi non facciamo venire milioni di persone quando abbiamo milioni di disoccupati qui. Non siamo in grado di aiutarli. Bisogna usare un'altra pensate via. Pensate a risolvere la disoccupazione, visto che siete al cara governo. Presidente. Pensate bene, a risolvere la disoccupazione, fatta, visto che siete al governo. Va bene, il duetto Bindi-Bossi a 8:30. Come Prodi che suggeriva le ditte di delocalizzare. No, adesso però Bossi la devo fermare. Va bene, perché... 21 e 8 minuti 800 24 00 24, direi di sentire qualche ascoltatore. Alle 21:10, 2 minuti abbiamo la pubblicità. Giancarlo da Milano. Buonasera, Cruciani. Buonasera, dica. Dunque, io dico che la Lega ha vinto al Nord perché è stato l'unico partito che fa politica. La Lega fa politica, dà una speranza, va in mezzo alla gente, parla alla gente. Questi parrucconi qui, tipo la Bindi, sono finiti. Cioè, la gente, io non so... Vabbè, adesso lei parla anche come elettore, immagino, no, della Lega. Dunque dice i parrucconi, la Bindi. Va benissimo, però cerchiamo di andare un po' oltre, no? Vabbè, comunque, oltre io dico che le regioni del Nord sono le regioni che hanno il PIL più alto del... per questo lo sappiamo. No, non è che il resto non conta, però, Il resto dell'Italia non è che sia proprio così da buttare via. Danno una mossa. Io penso che col federalismo in tutte le regioni l'Italia cresce. Sono queste le riforme da fare. Va bene, Giancarlo, abbiamo capito. Cota 47,7, 46,9 la Bresso, 440.000 voti, 839 contro 433,350. Dunque abbiamo una differenza di 7.000 voti al momento. Giuseppe, provincia di Modena. Pronto. Giuseppe, buonasera, dica. Buonasera, no, io volevo semplicemente fare un piccolo commento sul discorso prima di un radioascoltatore, no? Che diceva, parlava di che non riusciva a capire la politica di Casini, no? Perché si era alleato. Sì, allora se ci vuole parlare della politica di Casini deve aspettare un attimo perché abbiamo la pubblicità. Bene, 21:11 800 24 00 24, eravamo in collegamento con Giuseppe dalla provincia di Modena, buonasera. Allora, io dicevo che io non vedo nulla di scandaloso delle scelte di Casini di allearsi in alcune regioni col PDL, in alcune regioni col PD. E chi ha detto che è scandaloso? Mi scusi, Giuseppe. No, un vostro ascoltatore prima diceva che non condivideva questa scelta di Casini, non riusciva a capirla. Sì, no, d'accordo, sarà anche un caso però, Giuseppe. Diciamo le scelte più controverse sono state quelle di Bonino, di Polverini da una parte e della Bresso dall'altra, no? Due candidati molto distanti l'una dall'altra, una nel Lazio, cioè l'UDC ha appoggiato la Polverini e invece l'UDC si è alleato con il centro-sinistra in Piemonte. Beh, insomma, sarà anche un caso e certamente molto dipende dalle scelte locali, la forza della Lega in Piemonte, la vicenda della lista del PDL in provincia di Roma nel Lazio, però i due candidati appoggiati dall'UDC sia nel Lazio che in Piemonte sono usciti sconfitti, o meno sembrano uscire sconfitti, almeno al momento, alle 21:12. Comunque se non avevano un candidato da poter presentare e poter competere con il candidato del PDL, oppure non avevano, oppure addirittura che abbiano condiviso anche il programma che ha sviluppato il presidente della regione, il candidato presidente della regione. Io mi sembra proprio assurdo che secondo me bisogna spazzare questa ideologia di dire siccome si vogliamo di un certo, una certa corrente politica, dobbiamo per forza cavalcare questa corrente politica qua. Secondo me gli accordi politici devono esistere. Cioè, se un elettore si rappresenta e si riconosce nella politica di Casini e si sente, crede nella garanzia di Casini, ma perché non appoggiare un candidato di destra? Non ho capito bene. A me sembra che al di là della legittimità in politica, per carità, si può essere e si deve essere in alcuni casi spregiudicati, però mi sembra che ci sia stato un eccessivo tatticismo anche dell'UDC in questi ultimi mesi, prima delle elezioni, nella preparazione delle candidature, un eccessivo tatticismo. Ripeto, non condanno allearsi da una parte o dall'altra a seconda delle convenienze, linea di principio, però l'impressione che si è data all'esterno è stata quella, secondo me, di una ricerca delle soluzioni migliori. Cioè, per un elettore dell'UDC non è facile capire perché va bene la Mercedes Bresso in Piemonte, alleata tra l'altro ai comunisti, eccetera eccetera, e comunque su posizioni non certo favorevoli a quelle, diciamo, cattoliche espresse dall'UDC, e invece va bene la Polverini nel Lazio. Non è facile spiegarlo. Io chiedo a lei, no, che lei sicuramente è molto più informata di me. Ma lei, il programma che ha espresso la Bresso a sì, Giuseppe, a... lei mi vuole far, le vorrebbe far passare l'idea che il programma della Bresso è più vicino all'UDC rispetto a quello della Bonino. Io credo che non sia così. Credo che i programmi in questo caso contino molto molto poco rispetto a logiche di posizionamento e di tatticismo elettorale. Giampaolo Panza sulla 7, sentite. I partiti in lizza hanno tutti delle facce che non mi convincono. Tra l'altro penso che adesso c'è tutta questa polemica sulle astensioni, ma di astensioni ce ne saranno tante, soprattutto sul versante del centrodestra. Abbiamo vinto noi. Siamo il partito che a queste elezioni ha preso più voti, pur non raccogliendone neppure uno. Siamo quelli che di riffa o di raffa, per i motivi più disparati. Regionando 2010, questo è il titolo dello speciale della 7. Traffico, torniamo tra un attimo. Non c'è il traffico alle 21.15? No, vabbè, non siamo abituati, calma. Daniele da Firenze. Sì, buonasera Cruciani. Innanzitutto complimenti per l'obiettività della sua trasmissione, sia quella di stasera che quella delle ultime settimane, che in questo vuoto mediatico mi hanno fatto molta molta compagnia, le ho trovate molto utili. Grazie, dica pure. Dopo questa premessa, io sono un elettore di centrodestra, vivo a Firenze da 25 anni e ho sempre votato anche alle amministrative, ma quest'anno ho lasciato perdere, e le spiego perché. Non si può partire sconfitti sempre, in più presentare delle candidature assolutamente di secondo piano. Per usare una metafora calcistica, sentivo oggi Capezzone che usava metafore calcistiche dicendo che a Roma era come giocare in 9 contro 10. Ecco, ne uso una anch'io calcistica. È come se alla partita Juventus-Inter, in questo momento, la Juventus decidesse di far scendere in campo la squadra primavera, i giovanissimi oppure. Ecco, non vado nemmeno a vedere la partita, capisce Cruciani? Non ho capito la metafora a chi si riferisce. La metafora si riferisce al fatto che se noi, elettori di centrodestra, sapendo di partire sconfitti in una regione rossa come la Toscana, in più abbiamo come candidata alla presidenza della regione una persona che sarà onestissima e bravissima, ma una figura assolutamente di secondo piano, capisce che... Vabbè Daniele, però non mi sembra che, per carità, io capisco qualcuno che vota centrodestra in Toscana e che magari non ha gradito la candidatura espressa dai leader del centrodestra, però la Toscana non è una regione in discussione e credo non potrà esserlo, chissà, forse ancora per una generazione. 21.17, andiamo a Campobasso. Alfredo. Sì, salve, buonasera. Io volevo intervenire sul tema dell'affermazione della Lega. Io ho sentito prima l'intervento di un ascoltatore che diceva che noi del sud, io chiamo dal Molise, dobbiamo darci una una mossa, io che credo, cioè sono d'accordo perché credo che questo sia il nodo della questione, cioè noi assistiamo da anni a un drenaggio di risorse dal nord verso il sud. Io faccio parte di una regione che riesce a produrre il 30% della spesa pubblica che consuma, quindi vuol dire che il 70% viene coperto da altre regioni. Ora io ho 27 anni e sono un ingegnere, ho provato, sto provando di diventare un imprenditore, stiamo aprendo un'impresa nell'ambito delle tecnologie wireless e quando parlo con i miei corregionali alcuni mi vedono come un eroe, cioè una persona che può salvare la baracca, altri come un pazzo scatenato che dicono ma perché non trovi un qualcosa diciamo di più sicuro, di più stabile. E quindi ritengo che noi dobbiamo darci come persone del sud, come giovani, anche laureati, ce ne sono così tanti in giro, dobbiamo dare una sferzata a questa mentalità, cioè dobbiamo essere noi ad approfittare del federalismo fiscale, ad essere autosufficienti, diciamo. Quindi per Alfredo, questo va bene come discussione, questo ragionamento come discussione generale che si può fare in qualsiasi momento, ma rispetto a quello che è successo nelle ultime ore, cosa ha da dire, qualcosa oppure no? Perché altrimenti tema del federalismo fiscale possiamo andare avanti per ore e ore. Io ho sentito degli attacchi al fatto alle posizioni della Lega dovuti al fatto di un neorazzismo, di una lotta contro l'immigrazione, che è un tema, ma secondo me il tema principale che porta così tanti voti alla Lega è un tema economico dovuto al fatto che noi assistiamo a un drenaggio di risorse. Quindi dovremmo riflettere noi del Sud più che attaccare il fatto che e preoccuparci del fatto che la Lega prenda così tanti voti, dovremmo invece riflettere sul fatto che noi dobbiamo dare una sferzata. Va bene Alfredo, grazie. Alessandro da Bologna. Sì, ciao. Pronto, mi senti? Buonasera, dica. Buonasera. Allora, io volevo dire prima di tutto che sono molto felice di come stanno andando le cose, al di là di tutto, e sottolineare che in fondo, cioè il dato politico di questa elezione è una sostanziale fiducia dell'Italia nel governo e nell'operato del governo. Ora che la Bindi venga a dire che la parte dell'Italia che sta dando fiducia a questo governo e alle cose che sono state fatte fino adesso è un'Italia di saponettari e di truci di orchi che metterebbero a pane e acqua i bambini, insomma mi sembra sinceramente una lettura politica assolutamente ottusa, che non tiene conto non tanto più di un fenomeno che come viene spesso definita la Lega, e io ripeto, no, non lo ripeto, lo dico adesso, io non sono un elettore della Lega, però ecco, mi sembra veramente riduttivo da parte di un partito politico come il PD ridurre la Lega ormai a un fenomeno, è un dato di fatto con il quale si devono confrontare, perché questa è l'espressione dell'Italia e io non so, questo mi spaventa il fatto che non abbiamo in Italia un'opposizione che è in grado di dare veramente il valore alla pronuncia del popolo, no? Che in questo momento sembrava, dopo una campagna elettorale assassina che ha fatto la sinistra, che avrebbero stravinto, che avrebbero... Scusi Alessandro, perché lei parla di campagna assassina della sinistra? No, mi spieghi. No, lo spiego nel senso... Cioè, campagna elettorale assassina da parte della sinistra, mi deve spiegare questa parola. No, assassina è una parola un po' esagerata probabilmente, nel senso che... Non so, mi sembra un'espressione così da militanza, però no, va benissimo, per carità. La campagna elettorale assassina della sinistra, cosa vuol dire? No, io l'ho detto probabilmente con un'enfasi che... Senta Alessandro, sentiamo Rosy Bindi sulla Lega, Non so chi mangiano i voti, indubbiamente però la Lega si sta affermando sempre di più al nord e si sta anche espandendo. Certo che siamo preoccupati perché la Lega che abbiamo visto in queste elezioni è la Lega delle saponette, è la Lega della taglia per chi denuncia i clandestini, è la Lega dei bambini messi a pane e acqua se non pagano la retta delle scuole. Questa è l'analisi di Rosy Bindi sulla Lega. Grazie ad Alessandro da Bologna. Giuseppe da Bari, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Niente, sono contentissimo della vittoria di Nicchi qui in Puglia. Finalmente ha vinto... Auguri. Grazie, ha vinto il politico, ecco, non la, cioè la coalizione è andata sotto, però lui si è dimostrato, insomma, un vero politico. Ecco, sì, c'è stato anche un regalo da parte, diciamo, del centrodestra, diciamo la verità. Il fatto di non essere stati uniti loro, sì, però... Sì, no, ma ne, per carità, senza trascurare la forza personale di Vendola, penso che il centrodestra abbia fatto un grande regalo a Vendola in Puglia, con scegliendo il candidato in ritardo, litigando successivamente sulla questione della Poli Bortone, eccetera eccetera. Un candidato forte del centrodestra con un, diciamo, con i moderati, chiamiamoli così per semplificare, uniti in Puglia, avrebbe vinto nonostante la forza personale di Vendola. Certo, sono d'accordo, perché comunque... Però poi ormai insomma sono ragionamenti che non si possono fare. Certamente qualcuno l'ha detto prima, pare che si stia dando anche la responsabilità di quello che è accaduto a Fitto e alla gestione, insomma, della scelta del candidato da parte del ministro. Prego, Giuseppe. L'ambito della sinistra non è stato così, perché Vendola ha dovuto lottare anche contro gli stessi, cioè la stessa sinistra, quindi anche lo stesso D'Alema, insomma, quindi con la candidatura di Boccia, quindi le primarie, cioè è stato un cammino bello lungo e comunque Vendola si è fatto strada, ecco, quindi finalmente, insomma, la persona o comunque la buona politica che ha fatto in questi 5 anni. Vabbè, ma al di là di questo, che ci vuole dire, Giuseppe? Buona politica, naturalmente, secondo Vendola, secondo quelli che non hanno votato, non era una buona politica. Per cui, certo, insomma, certo, al di là della sua felicità per l'elezione di Vendola, cosa ci vuole dire lei? Niente, praticamente che è contento di Vendola. Vabbè, d'accordo, sì, registriamo, certo, che è contento di Vendola. La ringrazio. Paolo da Cagliari. Buonasera. Dica. Buonasera, Cruciani. Volevo dirle, milito al Partito Democratico. Il Partito Democratico, che non si è mai deciso di fare una vera opposizione, contrariamente all'Italia dei Valori, che ad ogni elezione continua ad aumentare i propri voti. Il Partito Democratico continua con le sue posizioni moderate, a volte ancora più moderate di quelle di Casini. Non mi pare che sia questo il tema che viene fuori dai risultati elettorali, però. Beh, allora parliamo della Lega. No, nel senso, non mi pare che il tema che venga fuori sia l'opposizione moderata che fa il Partito Democratico, perché insomma, non credo che sia stata un'opposizione moderata quella del Partito Democratico negli ultimi mesi nei confronti di Berlusconi. E Di Pietro che cos'è? Di Pietro è opposizione, no? Sì, sì, non mi pare che l'opposizione del Partito Democratico sia stata moderata, poi perde tutte le elezioni. Anche qui, insomma, bisogna interpretare, a parte che le elezioni, ripeto, i risultati del Lazio e del Piemonte ancora non sono definitivi. Sì, ma in ogni caso capisce che il Partito Democratico è un partito allo sbando completamente, anche sentire la non mi sembra allo sbando, poi lasci perdere le valutazioni della Bindi sulla Lega, insomma, quello è un altro discorso. E parla sempre per metafore, non parla mai chiaro. Poi per la Lega, sembra che sia un partito di opposizione che abbia vinto oggi. E la Lega è al governo da diversi anni adesso, quindi chiaramente... Ha vinto al nord. Le propongo una cosa: si candidi in tutta Italia, la Lega vinca in tutta Italia, così non si pone più il problema della secessione. Sì. Vediamo cosa fanno gli ascoltatori della sua proposta. La ringrazio. 21 26 800 24 00 24. Andiamo a Roma. Gianni. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo dire la mia per quanto riguarda questa vittoria ennesima della Lega. Secondo me, lo dico da romano e anche da elettore, diciamo così, di aria di sinistra, secondo me la Lega sta interpretando la globalizzazione e tutti i problemi che ne conseguono nel migliore dei modi. Magari la risposta non è sempre quella giusta, però almeno tenta di dare una risposta a tutte le problematiche relative all'immigrazione, relative agli scontri culturali e quant'altro. Dico questo anche avendo un'esperienza personale, perché io da qualche anno ho una compagna che è straniera e proviene da un paese a maggioranza musulmana, paese nel quale sono stato anche diverse volte, e vi garantisco che tornando in Italia e essere stato lì per diverso tempo, vi posso garantire che tutto quel mondo di Islam e quant'altro è veramente un problema anche per il modo per il quale loro intendono la libertà. Mm. completamente diverso dal nostro. E dunque, secondo lei, la Lega interpreta bene anche questo aspetto qui? Beh, secondo me la Lega sta vincendo proprio su questi temi, dove la sinistra invece non sembra avere nessun tipo di posizione, sembra un po' essere un ventre molle nei confronti di tutta una situazione che, vi garantisco, è veramente drammatica, l'ho vissuta sulla mia pelle. Allora dico, se qui veramente il centrosinistra non trova una posizione su questi temi così importanti, ci ritroveremo tra pochi anni ad essere in qualche modo costretti a votare Lega, perché qui è veramente una situazione difficile. Va bene, ho capito Gianni, grazie. Sentiamo Lupi, PDL sulla 7. Perché l'altro tema, l'ago della bilancia della competizione, dicendo al centro un po' a destra, un po' a sinistra. Nelle regioni in cui è venuta con noi non è stato assolutamente determinante, invece diventa determinante in alcune regioni per la vittoria della sinistra, e se il dato fosse confermato sarebbe la più clamorosa sconfitta della linea di Casini, la sconfitta in Piemonte di una coalizione vecchio Ulivo che va dalla Rifondazione Comunista all'UDC, che viene sconfitta semplicemente e banalmente dalla Lega e dal Popolo della Libertà. Mi sembra che ci siano tante buone riflessioni da fare insieme. Ha messo già abbastanza carne al fuoco. La Torre, con la stessa sinteticità. Fabrizio da Modena, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io sono un toscano immigrato in Emilia, quindi le faccio capire già di che parte politica sono, tanto per capirci. E sono un suo fedelissimo ascoltatore. E vorrei parlare un attimo però del discorso PD. E in una ottica critica però, in quanto ovviamente diciamo che per noi del PD le elezioni sono andate meno peggio di quello che pensavamo. E siamo in bilico in Piemonte e nel Lazio, tuttavia io siccome nel 2005 avevamo vinto 11-2, avevo visto un po' troppi festeggiamenti, fuochi d'artificio, feste in città, anche dappertutto in Emilia, Bologna, in centro, grandi feste. Ecco, io voglio dire questo, sono convinto elettore del centro-sinistra, però vorrei chiedere a tutti quanti quelli che ci ascoltano del PD di non fare troppe feste, stare calmi. Guardi, non mi sembra che si facciano troppe feste, lei forse sta vedendo un altro film o sta seguendo qualcos'altro, non mi pare che sia aria di festa per il momento. Eccoci qui, 21.32, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta ancora fino alle 22 per sentire i vostri pareri. Siamo in collegamento con il direttore del Tempo di Roma, Mario Secchi. Buonasera, ciao Mario. Buonasera, ciao, come va? Non c'è male, titolo, se già avete deciso. Non ancora, ho appena finito la riunione della prima pagina e ho rivisto il timone del giornale poco fa. È una giornata incredibile sotto molti punti di vista. E dunque ancora non c'è niente di deciso, no, più o meno un'indicazione. Scriverò il mio editoriale e poi ci farò il titolo sopra. Ma il senso della giornata è chiaro comunque. E qual è? Beh, il Caimano se li ha mangiati tutti di nuovo. Ah, dici proprio così, dritto per dritto? Sì. C'è ancora una vittoria di Berlusconi? È ancora una vittoria di Berlusconi, che ha girato la chiave, ha fatto rombare la sua fuoriserie e ha fatto mangiare la polvere alla sinistra. Al nord quella fuoriserie è un sidecar con Bossi a bordo. Ti sto dicendo cosa scriverò. No, certo. Più o meno. È una corsa che dovrebbe portarlo a conquistare certamente la Lombardia, certamente il Veneto, la corsa in Piemonte non è ancora chiusa, però Roberto Cota può vincere. Nel Lazio c'è una straordinaria sfida in corso, con un testo a testa incredibile tra la... Ecco, tu che sei il direttore del Tempo, insomma, giornale radicato a Roma, le indicazioni che vengono dai tuoi, insomma, da chi sta seguendo per te, quali sono? Perché sembra, insomma, che la Bonino alla fine ce la possa fare, al di là poi di tutte le cose che sono state dette. I rumori sono quelli che in realtà ce la farà la Polverini. Ah, così? Sì, perché, ma questo ti ripeto, sono impressioni, faccio il cronista in questo caso, non sono mie conclusioni, io sto sempre ai fatti, c'è un fenomeno interessantissimo, l'astensione nella capitale ha punito il centro-sinistra, nel senso che le elezioni regionali nel Lazio sono sempre state decise da Roma, cioè il voto premiava costantemente la sinistra. Sì. Stavolta però a Roma non si è votato e la massa complessiva di voti raccolti dalla Bonino a Roma potrebbe non essere sufficiente a pareggiare o a superare il conto con quelli che invece ha raccolto sia a Roma ma soprattutto in provincia la Polverini. La Polverini in provincia ha percentuali bulgare. Tu mi stai dicendo che le sezioni che mancano alla conclusione dello scrutinio sono quelle della provincia. Sì. E dunque, diciamo, vi faccio un esempio per essere sì. chiari. Rieti, sì. la Polverini ha 33.000 voti, la Bonino 25.000. Viterbo, altro esempio, la Polverini ha 33.000 voti, la Bonino 26.000. Frosinone, la Polverini ha 64.000 voti, la Bonino 42.000. Latina, sto facendo in diretta questa operazione, Latina, la Polverini ha 57.000 voti, la Bonino 31.000. Cioè stiamo a 64 a 35 a Latina, sì, per essere chiari. A Frosinone stiamo a 60 a 39. Dunque, le sezioni che mancano e che non sono ancora arrivate sono quelle dove la Polverini è più forte. È fortissima. Leverei il forte per dire che è fortissima, cioè abbiamo percentuali pazzesche. A Rieti ha il 56% contro il 42% e mancano ancora parecchie sezioni da scrutinare. A Viterbo abbiamo 112 sezioni su 295, la Polverini al 55% e la Bonino il 44%. La sensazione è questa, poi ovviamente le elezioni sono sempre un'incognita, quindi magari tra due ore abbiamo uno scenario un po' diverso, però questo insomma è il dato che starebbe emergendo. Non a caso, se guardate le proiezioni, sono favorevoli alla Polverini, di poco, perché il distacco poi sì, di alla fine vedrete, lasciamo perdere chi vince, ma chiunque vincerà il distacco sarà nell'ordine di 10.000 voti, non di più. E naturalmente con la lista del PDL in provincia di Roma non ci sarebbe stata partita? Con la lista del PDL in provincia di Roma avrebbe fatto cappotto. Perché non ci sarebbe stata letteralmente partita per il PD. E gli esperti calcolano 2%, 3% la perdita più o meno. Sì, probabilmente questa è la cifra. Devo dire poi l'altro dato interessantissimo è che la macchina organizzativa del PDL romano si è mossa in maniera incredibile. Voi dovete pensare che la lista Polverini, cioè la lista di una persona che fino a ieri non faceva politica, sì. ha quasi il 30%. Cioè è la prima lista del Lazio. Vabbè, è vero che là si sono riversati i voti del PDL a Roma. Certo, ma è dura far votare. Tu devi sempre pensare e i nostri amici che ci stanno ascoltando devono sempre pensare che cosa significa votare. Votare significa recarsi al tavolo, alzarsi la mattina o il pomeriggio, andare al seggio, è già impresa eroica di questi tempi. Poi farsi dare la scheda, aver deciso che cosa votare e non trovare il simbolo che magari hai votato per un po' tardi. Ma quello è... Cioè è un'operazione che insomma non è una banalità. Nella provincia di Roma si è votato senza il simbolo che porta il nome di Berlusconi. Sì, no, certo, perché è una cosa non da poco. Un significato politico molto grande. Allora, Mario Seghi oggi è direttore del Tempo, ma insomma ha vissuto a Milano tanti anni, conosce, ha vissuto a Genova, sì. a Milano, insomma, il nord non è che non lo conosce, nonostante questo spiccato accento sardo. Alto Atesino. E allora, ma io insomma, tutto questo stupore per la vittoria della Lega, francamente non lo capisco. Va certo, Cota è un risultato in Piemonte, sarebbe straordinario per la Lega. In realtà, perché insomma nessuno poteva immaginare che Colabresso potesse perdere. Cosa viene fuori? Un problema per Berlusconi? Secondo me no, però. Allora, è un'opportunità per Berlusconi. Se Berlusconi si mette di buzzo buono, come suol dirsi, Berlusconi ha una straordinaria opportunità, perché il PDL è l'unico partito che può garantire una cornice nazionale a un paese che insomma è sempre quello delle due velocità alla fine della fiera. La vittoria della Lega nel Nord ovviamente pone delle basi importanti per il partito di Bossi per conquistare quelle che gramscianamente sono le case matte del potere, e non c'è partito più gramsciano di quello del Senatur, aggiungo, e tuttavia però il PDL a mio avviso deve cogliere questa opportunità per dare una cornice appunto nazionale alle sue politiche e quindi cercare di intanto mantenere il profilo istituzionale della Lega, che è molto cambiata rispetto ai suoi esordi, certamente, ma resta un partito macro regionale a questo punto molto forte, no? E nello stesso tempo dare garanzie al Sud nel disegno del federalismo fiscale. I prossimi mesi, se questi dati elettorali saranno confermati, saranno molto interessanti dal punto di vista della dialettica politica sia all'interno del centrodestra, ma attenzione, il centrosinistra, se sono confermati questi dati, ha dei problemi giganteschi al suo interno. Perché è vero che mantiene la sua roccaforte appenninica nell'Italia centrale, in Emilia Romagna, eccetera. Ma analizzate un attimo i dati della stessa Lega in quelle zone. E nei distretti industriali, il partito di Bossi piglia voti. Sì, non solo, ma c'è un altro elemento interessante. Grillo gli porta via il 3% in alcuni posti. Quindi c'ha nemici sul fronte, diciamo così, socio-economico, no? Da una parte rappresentati dalla Lega, li portano via voti là. Un nemico, l'enemia gauche a sinistra, che è l'antipolitica di Grillo. Ma l'unico vincitore è Vendola. L'unico vincitore vero è Vendola, che non è proprio del Partito Democratico. Bravissimo. L'analisi finale di tutto questo, di tutta questa baraonda, è che Vendola è potenzialmente il nuovo leader della sinistra. Grazie a Mario Secchi, direttore del Tempo, buona serata, 21:41. Marco da Varese, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, io la chiamavo per questo motivo, sinceramente è qualche anno che l'ascolto e mai aver pensato di dare in mano il telefono e chiamarla. Faccio una premessa, io ieri sono andato a votare da elettore sconfitto, nel senso che ho votato in Lombardia, si sapeva, voglio dire, da qualche mese che avrebbe vinto Formigoni, per cui mi sono recato a seggio, ho votato Comunisti Italiani, ho votato Mangoni, ma più per un voto di, insomma, di simpatia, insomma, non certo di contesto. Ascoltavo prima la Bindi, siccome io adesso ho 35 anni, ho visto nascere e crescere la Lega anche abbastanza da vicino, e l'ho votata fino al primo ribaltone, poi non l'ho più votata, più che altro perché ho giurato a me stesso che dopo tutto il veleno che era stato buttato sulla Lega da Berlusconi, non avrei mai accettato che la Lega tornasse con Berlusconi, per cui non l'ho mai più votata. Però la cosa che veramente mi lascia perplesso è che sentire la Bindi oggi sembra di ascoltare Andreotti 15 o 16 anni fa, cioè dicono ancora le stesse cose, non capiscono che fondamentalmente la Lega è un movimento che ha la sua forza nel radicamento nel territorio, nel senso che ormai è rimasto, secondo me, l'unico partito che ha le persone nel territorio, ha un referente nel territorio, conosce il territorio, parla del territorio, cioè al di là del localismo, di tutte poi le puttanate che si inventano, ma è proprio questa la forza, che secondo me in questo momento in Italia è rimasto l'unico movimento, l'unico partito che è veramente come dire, un punto di riferimento per chi vuole avere l'occasione di parlare con un partito. Ma perché lei non l'ha votata allora? Io non lo voto perché ho fatto una promessa a me stesso e vado avanti a non votare. Ah, quella famosa promessa del 94. Poi ci sono delle cose che non condivido, voglio dire, nel senso che non è solo per quello. Cioè, certo. Allora, un aggiornamento sui risultati del Piemonte, 2713 sezioni, dunque siamo già ampiamente oltre la metà, che è 2004. Abbiamo 47,7 Cota, 47 l'Abresso, 523.423, 515.403. Il risultato, la distanza è costante adesso, si attesta più o meno sui 7.000-8.000 voti, in questo momento 8.000 e qualcosa. Andiamo a Venezia, Antonio. Salve, dottor Cruciani. Dica. Antonio, pronto? Dica. Ok, io il commento che volevo fare, la riflessione, sono anch'io un elettore non come quello precedente, di sinistra un po' più convinto, di 41 anni, ed era sempre in merito a quanto aveva detto la Bindi sul partito delle saponette. Purtroppo io, come veneto e veneziano, ho visto la Lega crescere sempre più fortemente, mi lascia però due perplessità grosse, che di fatto in molte province del nord, in piccoli comuni, visto che siamo nazione di comuni, comunque ci sono delle statistiche bulgare, e a me pare che ci sia un certo appiattimento da questo punto di vista. E in secondo luogo, che comunque sia, per ora la Lega potrebbe anche rappresentare uno dei più forti partiti a livello nazionale, ma continua ad avere una politica estremamente nordcentrica, e quindi mi chiedo come farà poi un giorno Berlusconi, che potrebbe anche sfruttare l'occasione di essere ancora più forte mantenendo la Lega al suo fianco, ma dovendo cedere comunque qualcosa, come farà la Lega ad avere il federalismo che tanto ha sbandierato. Vabbè, adesso vedremo Antonio, vedremo Antonio come si assesteranno le cose nei prossimi mesi. Abbiamo il traffico 800 24 00 24. Torniamo per l'ultimo quarto d'ora con la Zanzara, ma lo speciale elettorale continua anche dopo le 22 con Daniele Biacchesi. Siamo qui 21:46, Buttiglione alla 7. Chi c'era che imperversava? No, non è obbligatorio. Voglio fare a loro i titoli. Come prima cosa voglio ricordare una cosa che si tende a dimenticare. Questo sempre, è Pardi. Io sono Pancio Pardi. Che come tutte le campagne elettorali da due decenni circa, questa non è stata una campagna elettorale giocata con strumenti pari. Perché in Italia... Ripete sempre le stesse cose, per carità, legittimo, ma ripete sempre le stesse cose, Berlusconi, eccetera, eccetera. Felicia da Milano, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo spiegare perché ho votato Lega. Semplicemente per questo, contrariamente a quello che pensano i politici che si partecipano a Santoro per parlare di escort, eccetera, eccetera, noi siamo in un paese, soprattutto in questo periodo, che ha bisogno di cose pratiche, di fatti. E allora, pronto? La sento, Felicia. E io giudico le persone per quello che fanno quando assumono una carica. Per cui ho votato Lega e ho visto che Maroni, la ministra degli interni, mi ha sbattuto dentro dei latitanti che erano 20-30 anni che nessuno riusciva a trovare. Vedo il ministro Zaia che va a Bruxelles e partecipa alla manifestazione per il Made in Italy, per tutelare il parmigiano, eccetera, eccetera. A me queste persone mi servono per governare, per non parlare poi a livello locale, dove uno può verificare maggiormente il lavoro che svolgono quando vengono eletti. Non è che l'alternativa, però, per carità, io non discuto le sue scelte, Felice, non mi permetterei mai. Non è che l'alternativa sia tra chi parla di escort e di altre cose e la Lega, insomma. No, non è questo. Lo dico naturalmente rispettando le sue scelte, figuriamoci. Massimo da Roma. Buonasera a tutti. Io faccio parte di quelli che hanno perso, a quanto pare. Pronto? Beh, Massimo, non è che qui ci siano perdenti, sconfitti. Dipende. Da, lei ha votato nel Lazio, adesso non so chi abbia votato. Ma sì, vabbè. Comunque, è quello che dico nel Lazio io, ancora è tutto in ballo, per cui a dichiararsi sconfitto? No. Vabbè, comunque non è importante. Quello che dicevo era, secondo me, la sinistra perde perché parla le teste, invece gli italiani da qualche anno votano con la pancia. Un argomento che è tabù per la sinistra è le tasse, e non capisco perché la sinistra non possa parlare di diminuzione delle tasse. E l'immigrazione, il ragazzo che ha telefonato poco fa parlando di una sua esperienza personale, cioè dell'Islam eccetera, parla di una cosa che io, quando sto al bar, al lavoro eccetera, tutti parlano: l'Islam fa paura. È difficile, dico l'Islam per dire altre cose, è difficile sconfiggere questi argomenti. Cioè la Lega invece parla di queste cose, fa dei manifesti efficaci, fa il manifesto dell'indiano che ha accettato i bianchi che entrassero e si è ritrovato nelle riserve. Nelle riserve, sì. E quello è un messaggio efficace. Io ho votato sentendo anche la sua trasmissione, con la pancia. Cerco di leggere molti giornali eccetera, però lei una volta ha detto che Berlusconi, quando sente parlare di Di Pietro, gli si gonfiano le vene del collo, e questa sua battuta ha determinato il mio voto. In che senso, mi scusi? A favore di Di Pietro, immagino. A favore di e questo qui di pezzi un po', sono un uomo maturo, eppure faccio una cosa. Guardi, il voto è determinato da tante cose, uno può decidere anche all'ultimo secondo per i motivi più disparati, per cui si figuri se mi stupisco. Nel Lazio 3.432 sezioni su 5.266, dunque si va verso, non dico verso la conclusione, perché comunque Mancano ancora 1700-1800 sezioni, Bonino 50%, Polverini 49,4%, la distanza in termini di migliaia di voti è intorno ai 10-11.000 voti. Secondo Mario Sechi sono i voti della provincia, bisogna vedere, la distanza è abbastanza costante da ormai un paio d'ore. Andrea da Venezia. Sì, buonasera, salve dottore. Volevo un suo approfondimento rispetto a quanto detto dalla Bindi sulla Lega, chiaramente. Mi sembra che lei abbia preso una posizione abbastanza netta, però ecco, volevo sottolineare il fatto che secondo me la Lega in realtà propone una proposta di valore ben particolare, e lasciare i bambini in una scuola, nella messa scolastica, pane e acqua, è una proposta di valore abbastanza forte. Guardi, non mi sembra che la situazione sia come l'ha descritta la Bindi, abbia pazienza Andrea, non è così. E comunque non è la politica, anche se fosse la scelta di qualche amministrazione leghista, e ci sono scelte sicuramente scellerate, sbagliate di qualche amministrazione leghista, l'abbiamo criticato più volte, l'abbiamo detto più volte nella vicenda del White Christmas, si ricorda, eccetera, eccetera. Insomma, questo non c'entra nulla con la politica a livello nazionale della Lega, o comunque con le scelte di amministrazione di centri importanti come Verona, eccetera. Poi ci può essere il piccolo paese amministrato dalla Lega dove succedono delle cose strane, dove ogni tanto c'è qualche esponente che fa delle proposte bizzarre, noi siamo qui a censurarle e a ragionarci sopra, anche a spesso a riderci, a scherzarci, però non è che la Lega si può ridurre a quello che diceva la Bindi, eh? Questo è chiaro, però probabilmente bisogna tenerne conto e per dare anche unicità a questa proposta del partito. Sì, no? Mi scusi Andrea, ma certo bisogna tenerne conto, gli elettori mi sembra che tengano conto di altre cose però, eh. Che senso, mi scusi? Mi sembra che gli elettori tengano conto di altre cose, tengano conto della Lega sotto un aspetto un po' diverso rispetto a come viene descritta dai giornali italiani, diciamo, no? Sì, in questo senso non sono d'accordo, perché l'ascoltatrice di prima che ha votato Lega, quanto ha ammesso lei, proprio perché Lega fa delle proposte, come dire, ben mirate dal punto di vista politico, perché è un partito dei fatti e così lo ha definito. Secondo me questa posizione, che chiaramente non voglio giudicare, deve per forza tenere in considerazione il fatto che la Lega anche porta avanti delle proposte di valore che, voglio dire, non condivido, ma che devono essere sottolineate ed evidenziate. Infatti sono molto evidenziate e molto sottolineate. La ringrazio. Luca da Pistoia, la differenza tra Cota e Bresso, 2780 sezioni su 4832, dunque ne mancano 2100 in realtà, ancora da scrutinare, c'è tempo, è di circa 9000 voti. I voti che ha preso la lista Grillo fino adesso sono 43.000, dunque capite il ragionamento che si fa sui voti della lista Grillo, il centro-sinistra e la Lega in Piemonte. Luca da Pistoia. Sì, buonasera Cucciani, mi aggancio anche all'intervento dell'ultimo ascoltatore. Queste proposte di valore della Lega, queste proposte di valore delle amministrazioni, sinceramente non le vedo. Io ho visto Milano 36 anni e conosco abbastanza bene le realtà dei comuni amministrati della Lega, ma oltre a un piccolo cabotaggio non ho visto niente. Io da una classe politica mi aspetterei anche quella spinta in più, piuttosto che nascondersi dietro il dito dell'immigrazione e quant'altro. Quindi volevo fare una piccola provocazione. Cioè lei dice, a livello poi di proposte concrete sul territorio, naturalmente lei fa l'esempio di Milano dove ha abitato, eccetera, poi questa grande politica, queste grandi proposte della Lega non le ha mai viste. La mia piccola provocazione era verso gli ascoltatori, se mi potevano citare degli esempi concreti di buon governo, perché quelli che io vedo sono banche accusate per truffa, dove un funzionario comunale di un comune come Milano non sa leggere un contratto, sto parlando di derivati e quant'altro, dove c'è un uso spregiudicato del privato nella sanità, nella scuola e quant'altro. Quindi se mi fanno degli esempi concreti per convincermi dietro il militarismo. Anche lei generalizza però dall'altra parte, Luca, mi permetto di osservare che lei sta generalizzando anche dall'altra parte. cioè nel senso negativo nei confronti della Lega, mi parla della scuola e l'amministrazione della scuola e l'amministrazione della sanità in Lombardia non mi pare che siano due cose disastrose. No, non dico che sono disastrose, però c'è un uso veramente sconsiderato del privato, è tutto in mano a cooperative, cioè cooperative di cui se lei va a guardare la struttura sociale, la solidità e quant'altro, viene da mettersi le mani nei capelli. Va bene Luca, grazie. 800 24 00 24, Barenghi sulla 7, Riccardo Barenghi. Vendola in collegamento. Vendola in collegamento. Il gioco delle diete. Mi fate vedere Vendola, poi conclude Barenghi, chiedo scusa Barenghi. Con Stefano Ferrante, prima avevo detto che c'era Andrea Soglio? Sì, no, era il collega Andrea Soglio, adesso abbiamo Stefano Ferrante in collegamento dalla... Va bene, andiamo su Rai 1, Minzolini. All'interno, diciamo, da parte del centrosinistra, diciamo, ha mostrato dei limiti. Se uno va a immaginare che il Piemonte rischia di essere perso dal centrosinistra per la presenza della lista di Grillo, è un'altra cosa che dovrebbe far riflettere. Scusa Augusto, ma abbiamo di nuovo Masia 93. In linea. Allora, prego Sonia. Sì, Maria Soave. Allora, Maria Soave, scusami. La copertura del campione ora è l'85%, vediamo Renata Polverini al 56% e Emma Bonino... Beh, avete visto? La proiezione della Regione Lazio dà la Polverini in avanti al 50,6, Bonino 48,8, con una copertura del campione molto alta. Dunque, secondo le proiezioni con una copertura del campione quasi definitiva, anche il Lazio sarebbe stato vinto dal centrodestra. Questo confermerebbe quello che ci diceva prima il direttore del Tempo, Mario Secchi, a proposito dell'afflusso dei dati elettorali. Afflusso dei dati elettorali che nel Lazio significa assenza finora delle province, delle zone dove la Polverini è più forte. A livello nazionale c'è un dato che riguarda i partiti a livello nazionale che adesso viene dato durante Porta a Porta, ma lo seguiremo più avanti. Andiamo ad Alessandria, Walter. Dunque, ripeto, c'è questa proiezione del Lazio molto interessante, l'ultima proiezione da con un campione del 90%, da la Polverini avanti di un punto e mezzo. Enrico da Brescia. Salve, sono un elettore di sinistra, però mi lasci esprimere la felicità per l'elezione di Zaia in Veneto. Pronto? Le lascio esprimere tutta la felicità che vuole, Enrico. Perché, guardi, io lavoro in agricoltura e veramente... adesso che è stato eletto in Veneto, spero che ci resti e non si occupi. Pare che il Ministero dell'Agricoltura resti alla Lega, almeno così pretende Boss. Sì, guardi, qualsiasi altra persona dopo aver subito queste le sue scelte va benissimo. Perché? Ma guardi, io mi riferisco al territorio, visto che ha fatto delle scelte sbagliate secondo lei per quello che riguarda l'agricoltura. Pessima. Beh, insomma, è un argomento di discussione che ci porterebbe lontano. La ringrazio, lei è contento allora perché se ne va dall'agricoltura, sì, ho capito. Contentissimo. Perché va via dal Ministero dell'Agricoltura. Va bene. Amedeo da Roma, velocemente, dobbiamo chiudere. Sì, buonasera dottor Cruciani, grazie per avermi richiamato. Dica Amedeo. Era sul il mio intervento era per quanto riguarda la strategia di Casini, che purtroppo, cioè, diciamo, per lui si è rivelata fallimentare in queste elezioni, perché questo fatto di unirsi al centrosinistra da una parte, che poi dall'altra parte era anche la strategia di Bersani, che voleva questo grande ulivo, è stata fallimentare. Cioè, in politica 2+2 non ha fatto 4, questa è un po', la prova. D'accordo, grazie. Abbiamo chiuso con la zanzara specialissima questa sera sulle elezioni regionali, ma i commenti sulle elezioni proseguono dopo il GR delle 22, conduce Daniele Biacchessi con la zanzara. Ci sentiamo domani 18:30.